mother sucker. Yeah, that's what you want, huh? Microphone checker, checker, checker, checker, checker. Yeah, yeah, yeah. Motherfucking microphone checker. Keep that grip tight like my Smith and Wesson. Ike with the mic, which nigga tryna turn up. Hit you with the hurtful fucking truth like Sojourner. Motherfucking microphone eater. Spitting hot shit, hit your dome with the heater. Wouldn't wanna be a dish lyrical fajitas. Got dragon balls like my name was Vegeta. Motherfucking super duper swanking. Niggas still hating pigs, running for the bacon. Take them to the slaughterhouse, said we bout to order out. Tell them we the badass motherfuckers that they heard about. Yes, I guess the word is out. We coming for the top dollar, top rock baller. Since I popped my collar, niggas say they hit us, they ain't never shot nada. Me, I'd rather not snitch up on my own problems, cause I'm a microphone killer. Especially when my head is gone off that liquor. Specially educated, heavily medicated. Give me that beat and I'll put you next to Dilla. Flow sweeter than vanilla. Tell these haters beat it, Kent Jackson Thriller. I'm the nigga that you see when you in the mirror. Say my name 5 times, this what I deliver. This a motherfucking nuke that I'm dropping. The world in my pocket, duke you out the continent. Always drop hot shit, toroidal flow be constant. And I won't stop till I reach Christ conscious. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Niggas really want it with me. None of y'all niggas fuck outta here. Beach Coast, nigga, nigga. Pro ever in your area. This a motherfucking nuke that I'm dropping. The world in my pocket. Duke you out your continent. Always drop hot shit. To where the flow keep constant. And I won't stop till I reach Christ conscious. Nigga. Nickel. Niggas know. No. Niggas, niggas, niggas know. No. To be a state of elevation, because the underdog is eating, cause I'm starving like I'm Marvin, yo, emaciated overdose. Y'all never know the feeling that I get whenever I see the same bitches who put Dylan come on face with catching feelings. I'm appealing that he feel the sound, trying to get a feeling on my dick so she can stick around. She just think I'm different now, tatted up, braces gone, tell her bitch leave me alone. Only thing she want is for the kid to fucking take her home and lay it on the table. Hop in the range, the game is changing up, switch hitting, I'm dangerous, Michael Jackson's angel dust. Pardon me, I'm Harley with these lame MCs and zombie, and I'm jamming out like Marley with the bitches blonde. State of elevation, now we're levitating. Race thinks it ain't too late. We got me feeling great, floating on a cloud. It's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations. We motherfucking blazing. Hey, we levitating. Race thinks it ain't too late. We got me feeling great, floating on a cloud. It's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations. We motherfucking blazing. I said our friendship, sex, and party. Now the section she was texting her best friend, cause she won next, and I'm sure she gonna get it with this modern day Mike Siever. Martin, she was Gina. Told us how you know it, it was really nice to meet you. Now it's on to the next one. Nerd a life blessing. Fuck him but don't love him. So the next day I ain't texting. Missed calls by anonymous. Haters wanna try be us. Do not interested in the politics. The only thing I wanna do is body the game. Remember the name, Dylan Cooper, the Dark Knight. Brass knuckles and knife fights. Get light and Harlem shake. Coop's time to dominate. The show is on the roll. My pockets swollen up them big bills. Always gotta stay trill. Red light, pop them off. Top spot, now knock them off. Take over like hijackers. Detonation coming back to blow. Up. We mass attacking Stevie Wonder, master blaster, killing all these state right of elevation. Rappers. Now we levitating, raise stakes, it ain't too late. We got me feeling great, floating on a cloud, it's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations, we motherfucking blazing. We levitating, raise stakes, it ain't too late. We got me feeling great, floating on a cloud, it's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations, we motherfucking blazing. Big up, it's a stick up, call the motherfucking cops, they don't pick up. I got the ammunition in a system. system, making hits get rich and bitches on my dick, man, it's sick, man, I'm living this. It's wicked a wicked bitch, lick a clitoris, I'm feeling it, hitting it, a voodoo child, play guitar, the Hendrix style, flooding shit, Texas Stevie Ray Vaughan, Genghis Khan and Emperor, Mac Cobra, Jamaican nigga flexing, yup, Rogan is the best in this, haters who need evidence, I'm selling it all separate and building money like Tetris, irrelevance, my detriment, body bagging, perfection, it's expressionist, and I'm going express, niggas get left, guitar on my chest, spitting that death, you heard that I'm coming for heads and cutting your neck, better speed up, you gotta get left, sick of the rhymes, quit with a crime, murder the track, I'm doing some time, living divine, sign of the times, take over, it's state of elevation, now I'm levitating, great stakes, it ain't too late, we got me feeling great, blowing on a cloud, it's amazing, Jimmy Purple hazing, taking over nations, we motherfucking blazing. Hey, yo, live and direct from ZAM, Radio ZM. Abbiamo iniziato al contrario di come iniziamo solitamente. Solitamente mettiamo 1/2 pezzi pop italiano per poi passare al gruppo americano che trattiamo nella puntata. Questa volta abbiamo fatto al contrario, abbiamo messo State of Elevation di Dillon Cooper e Christ Conscious di Joey Badass. Adesso iniziamo con un trittico di cosine uscite recentemente e che ci ricordano i valori dell'antifascismo, che ci ricordano che il prefisso per chiamarci è sempre 1312 e che la libertà va difesa ogni giorno, ogni cazzo di giorno. Il primo pezzo che vi proponiamo è del gruppo di casa di ZAM, Rap Caverna Posse, che potete seguire tramite il canale YouTube ZAM Hip Hop Lab. È l'ultimo pezzo uscito dalla Rap Caverna Posse, si chiama Aurora. Il titolo, oltre a, appunto a richiamare l'antifascismo, richiama il nome della nave russa dalla quale partì il segnale d'inizio della rivoluzione d'ottobre e il nome del carattere usato dai partigiani italiani durante la Seconda Guerra Mondiale per inviare messaggi in codice, Aurora 22. Quindi il primo pezzo che vi proponiamo è Aurora di Rap Caverna Posse. RCP. Indomabili ribelli come Gino Gatti, compatti avanti sulle orme dei giganti, pochi santi. L'amore ha vari aspetti, però l'odio altrettanti. Lo riservo per chi sfrutta l'uomo, non per i briganti. Quelli come noi non ti sorridono, facci caso. Denti stretti come pugni sul tuo naso. Restiamo compatti come pezzi di un puzzle per un disegno più grande, senza aspettare il caso. Che homo faber fortune, però anche omini lupus. Oggigiorno la violenza ha assunto un tono più cupo. Nuova guerra tra gli oppressi come i tuzzi con gli utu. Sarà guerra tra le classi, sarà tutto perduto. Io non sono fatalista e non mi ferma la memoria. La mia scelta è più complessa di sconfitto o vittoria. È un processo che altalena tra dottore e boia. Radici secolari come una sequoia. Aurora dice antifa sottoscrivo. Non esiste fascismo costruttivo. Mi sudra per armati fac privilegiati. Offrire prospettiva a un luogo che ne privi. Aurora contro buio, pesti in posti desolati. In mezzo a gente sola, ragazzi rassegnati. Si sfrutta la paura, non si comprende la rabbia. Si nasconde la tristezza, la gioia di chi sta in gabbia. Cresciuti con la crisi sullo sfondo dove tutto ha un costo. Contro chi ci vuole a fondo stiamo al nostro posto. Lottiamo, noi non siamo uguali, patti chiari. Proporre alternativa, Aurora dice partigiani. Mettiamo le radici nelle crepe di sto mondo infame. La necessità da forza, gusto di chi ha fame. Questo mondo non è l'unico possibile. Dirla tutta non è manco il più appetibile. Siamo usciti dall'inferno per riveder le stelle, ma c'è chi è uscito dalla fogna solo per riveder le sberle. In un'invasione di ratti l'ignoranza è l'unica peste. Se la scuola non gli è bastata c'è chi li concerà per le feste. Cambino veste, chiamino un teste del vuoto dentro le loro teste. Chi parla violenza non sente niente, io non ho tempo da perdere. La memoria è costante ricostruzione del passato in vista del bisogno presente. Viene da chiedersi in che mani l'abbiamo lasciata. Dove il sangue di vittime e carnefici insieme si lava. Dove può sputare sentenze chi ha la bocca alla bava. Dove arrestano quattro studenti che mandano sei fascisti resti a casa. Anni a dividerci, noi meno puri più duri. Tra di noi non si fanno differenze, parlano anche i muri. Perché ciò che vedono non siano più solo soprusi. Vuoi combattere la paura? Prima fissala ad occhi chiusi. Dal tuo campo di battaglia cambio direzione. La mia guerra è un'altra, un canto disertore. Cambia fazione, chi comanda un cambio imperatore. Seppelliscimi in montagna, campo imperatore. In braccio il Mickey, in spalla canta mille storie. La musica non cambia, cambia le persone. Abbraccio chi mi parla, cambia l'intenzione. Di chi campa di terrore, vuole dirti come. Keep it knowledge, aspettare stanca. Vivi le ore, feel this moment. Se la notte ti sovrasta, spingi il nome. Contro chi ha rinchiuso l'alba dentro il sì signore. Vincono sempre i buoni, Italo Paolucci. Non importa quando parli, contano i gesti. Caratteri clandestini per i flusci. Ho in mano un testimone di staffette che non fermi. Ah yeah, e questa era Rap Caverna Posse. E ora introduciamo un nuovo gruppo che sono i Prealpi Onda Clandestina, direttamente da Saronno, quindi quasi vicini di casa con me, che sono di Cesate. È un giovane gruppo saronnese composto da Manico, Doie e Borghi MC, hardcore casereccio, antifascismo, birra e gnocchi della nonna. Cioè, queste sono le informazioni reperibili sul profilo Facebook del gruppo. Li potete seguire sul canale YouTube e Spotify Prealpi Onda Clandestina. E vi, appunto, per rimanere in tema con ciò che dicevamo prima, vi proponiamo 13 dicembre freestyle, che è un freestyle contro la polizia, e direi che di questi tempi ce n'è bisogno per ricordarselo che le guardie sono delle merde, e per ricordare la memoria di George Floyd. Mortai guardie come direbbe Uzzo. Sei tu che scrivi minchiate, non io che faccio brutto. La bio sia un fan molto speciale. Ci segue quella merda di muori male. Quando giro con la cricca, una mista sul palmo. Sarà giudici, mi sta filmando. Ciccio i back, non le bag. Per non incontrare gli sbirri è come fare rushar roulette. Voglio le strade spaccate, a te get throw up. Le mie Nike non le sporcate o ti ammazzo fra. Welcome to the jungle. POC soldati sull'asfalto, i randaggi già lo sanno. Odierò finché vivrò la polizia. Odierò finché vivrò ogni spia. Che sia in carcere, in volante, camionetta, a piedi, in moto, pure in segreteria. Mortelle, guardie, ferro e fuoco nella tua città. Sete di potere contro amore per la libertà. Benza nella boccia, accendi, non pensare, lancia, li prendi. Copri fra la faccia, altrimenti a sto giro ne prendiamo 20. V, non di vendetta, zio, ma di violenza. Sassi di coca qua spariscono in caserma. Se sulla gazzella l'ha puntato, vuole che la stenda. Il maresciallo troppo fatto già balbette qua. Il cliente abituale del bosco locale. Porta la divisa e la usa per non pagare. Pugni in bocca ai ragazzini dentro un commissariato. Sbirri sempre più violenti e fascismo legalizzato. Qua ci piove merda addosso e se ti opponi sei legato. Ma tutto ti è concesso al servizio dello Stato. Qua ci piove merda addosso e se ci scappa pure è morto. I media stanno muti e il porco viene assolto. E io, e questi erano i Prealpi Onda Clandestina da Saronno. E ora una combo molto molto molto interessante, composta da Docma e Pulsar. Docma alle produzioni, che ha deciso di fare una produzione molto particolare, registrando durante la quarantena i rumori di casa sua, quindi il rumore della lavatrice e della lavastoviglie, e appunto creando un suono artigianale con questi appunto elettrodomestici, e creando poi il kick, è stato creato battendo il mestolo di legno e poi la bacchetta sul divano per poterli legare insieme. E quindi, diciamo, con questi rumori caserecci si è creato questo beat, che comunque per quanto grezzo suona molto bene, ed è stato passato fino a Barona, a casa del nostro amico Pulsar, che si è subito come dire gettato nella scrittura, proprio perché intrigato dalla profondità suggerita dal basso e dalla batteria un po' fuori campo e dal ritmo lento ma ben cadenzato, e quindi ha voluto dare prova del suo flow rappando a volte un pochino più lento, a volte in extra beat, utilizzando i suoi caratteristici incastri e giochi di parole, e nel tentativo di far pesare, secondo me c'è riuscito, anzi secondo noi c'è riuscito, nel tentativo di far pesare tutti i singoli messaggi con tutte le singole rime. Parla ovviamente della situazione politica, sanitaria, ambientale che ci ha costretto in quarantena. Questo pezzo si intitola Forza Centrifuga. Casa, dolce casa, stendi i panni sporchi in famiglia, tanto qualcun'altra rilava. Antigenico, leccarsi le ferite, suda brava. Meglio occuparsi dei vicini come con la striscia di Gaza. È il solito ritornello che non trovi su Shazam. Il sistema ipnotizza ed evolve. Abracadabra alla casa, ma vivi nello stesso quartiere da sempre. Ma grazie alla scienza lo conosci meno di un quasar. Futuro scuro come il petrolio del Qatar, che esce dalle vene della terra come sangue a fiotti. Non tamponare troppo che non ce n'è per tutti. Raccontala tipo Barza di Totti e chiudi con una gara di rutti. Mi basterebbe fare due piotti per uccidere i miei demoni, ma poi mi accollano i lutti mentre il governo lascia crepare la gente in casa di fame, sete, dolori gastrici, dicendo che bevano i succhi. I polmoni della terra si ristorano mentre i nostri vanno in rovina. A breve pure il fiato sospeso, ci diranno perché inquina. In modo educato non si raffina, nella dirty version non si scraffigna quanto voi poveri cristi potevate darci prima. Quindi vi togliamo la libertà una ad una senza che abbiate altra scelta se non invocare le misure della Cina. C'è troppa carne al fuoco e non parlo di argomenti, castagne da tirare fuori in cerca di menti, visualizzandoli sui pavimenti, augurandogli tutti i possibili accidenti. Palmi ancora sporchi di chi si pulisce la bocca per mangiarci ai quattro palmenti e in quattro contenti, mentre gli sbirri aspettano che porto giù la spazzatura per detrarmi i loro prossimi stipendi. Stupendi, ti fanno la festa in maschera o senza, saranno immuni pure al contagio. Allora chi ha portato questa merda nelle carceri dove si sta consumando la più tragica delle stragi di Stato? Dico a te magistrato, amnistia o amnesia? Non andrà tutto liscio come l'oblio, sia quel che sia. Ogni giorno mi sento morire un poco alla volta, fino a quando della paura non resterà che la nostalgia. Vendemmia di sangue, bestemmia secolare, nella notte dei tempi si scarica il cellulare, ti caricano sul cellulare, ti lasciano a mare o a fare un bagno penale o a penare senza cure necessarie. Non puoi placare la carie con l'oro, devi riempire il vuoto che ha lasciato dentro il molare. Forse c'era una volta chi viveva felice e contento, alla fine della favola ripetiamoci la morale. Pagherete caro, pagherete tutto, la vendetta sarà terribile. Case di riposo eterno, carceri a cielo aperto, abusi a volto scoperto, la salute a pagamento. Pagherete caro, pagherete tutto, la vendetta sarà irascibile. Ne sono degli abissi con un microfono sommergibile, forza centrifuga come il sample di Lavatrice. E io, e questa era Forza Centrifuga. Gli autori, che sono Pulsar e Dogma, li potete trovare Pulsar ovviamente anche sul canale YouTube di Zami Pop Lab, ma anche sul suo canale personale che è RC Pulsar Uranio, come Rap Caverna Pulsar Uranio, mentre invece Dogma lo potete trovare su YouTube scrivendo Dogma in maiuscolo. Adesso mandiamo un altro pezzo che parla di libertà, parla di vita. È il nostro amico Long John Silver, a.k.a. Argento Vivo, nei panni di Bob Craxi, che ci parla della sua libertà in questo pezzo che si intitola appunto La mia libertà. Me ne hai fatto un'altra, 5 alto, mani pulite, triplo sick check, ritardato Bob Craxi. La mia libertà equivale alla mia vita. La mia libertà equivale alla mia vita. Mi gioco tutto finché non è finita. Perché la mia libertà equivale alla mia vita. La mia libertà, libertà, libertà. La mia libertà. Tolgo l'invallo stato, manco posso imparare a addormentata. Col mio socio Franco Sica. Prima stava il quinto raggio, adesso fa la bella vita. Mi gioco sta partita, l'antica non mi dica. Il popolino sfida, perché tu è come l'ica. Prendo la tua tipa, la sua amica poi si fica. Sto giù con Pietro mica, Giambullo sarà il mio dio. La mia libertà equivale alla mia vita. La mia libertà equivale alla mia vita. Mi gioco tutto finché non è finita. Perché la mia libertà equivale alla mia vita. La mia libertà. Io, io, io. La mia libertà. Io, io, io. La mia libertà. Io, io, io. La mia libertà. Io, io, io. Compro bei vestiti, guido Maserati. Vecchi pervertiti, non ci siamo accontentati. Tempi sono cambiati, gli anni sono volati. Ma una cosa non cambierà mai. Oggi magistrati, tengo yacht ormeggiati. A bordo recannati, diamanti da 7 carati. Li Giulia contatti, brillo come Liberace. Faccio stragetti incapaci, i nemici ne sono usciti completamente devastati. Morti ammazzati, corpi accatastati. All'ingresso della loggia c'ho 2 rottami estratti. Clock automatico, troppo attentati. Non moriremo mai, siamo troppo attempati. Con i Nox fanno top, me ne fo. Jackpot, faccio su sto rebellot. Se ne prendi un altro po', io ne voglio ancora un tot. Sono mio blocca da mamet, e non le capere scotch. Lo faccio e lo farò, lo devono sapere. Lo faccio e lo farò. Altro che la titania. E questo era Bobo Craxi dal collettivo, direttamente dal collettivo Mani Pulite. E adesso introduciamo un pezzo molto importante che si intitola Scusa se credo, dei CHF. E anche una novità nel nostro programma, perché stiamo per chiamare in diretta Moschito, cioè uno degli autori della canzone. Sulla droga la società civile tende a semplificare. Pronto? Uè, Leandro! Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Beh, tutto a posto, tu che dici? Tutto quanto bene. Prima di tutto volevo salutare e ringraziare dello spazio che ci state dando alla vostra radio, quindi grazie, grazie, grazie di voi, cuore. Grazie a voi. E niente, poi volevo dire 2 parole sul pezzo, visto che volevo parlare di questo. È un pezzo scritto in una comunità che parla sulle dipendenze, in un momento in cui tutti esaltano le droghe come se fosse una cosa normale. Questo va proprio contro tendenza come nostro stile, come cosa che reputiamo giusta, parlando appunto dei problemi che portano l'eccesso delle droghe attraverso la musica, in chiave musicale, come sempre. Come tu ben sai, faccio parte della crew di CHF con DJ Mad Mille da ormai più di 25 anni che facciamo questa musica hip hop, e a cui sono devoto e a cui non smetterò mai di dire grazie. E questo pezzo è nato con una collaborazione insieme ad altri ragazzi che hanno avuto problemi forti, ci ha unito, ci ha dato possibilità di rivalsa, e come sempre la musica ci ha dato lo spazio per trasmettere le nostre vibrazioni positive nella chiave che conosciamo meglio, che è quella dell'hip hop, diciamo. Quindi non posso che essere soddisfatto del lavoro fatto. Ci sono altri lavori in corso, CHF è sempre viva, anche Med è sempre operativo, Stanza Buia pure. Siamo sempre in prima linea, in poche parole, ecco, la musica, la passione per questa musica è sempre viva, non si è mai spenta, anzi, il fuoco è sempre alimentato, viene sempre alimentato, come è giusto che sia. E niente, penso di aver detto abbastanza, ecco. Questo pezzo è stato fatto con la base di Cisco, alla chitarra Thomas, mixaggio del mio fratellone Mad Mille, e il video diretto da Andrea Caracciole, che è Cabo, un altro grande rapper delle nostre zone, della provincia di Varese. E niente, tutto quanto qua. Penso di aver riassunto abbastanza bene il significato del pezzo, l'amore, la passione per la musica che portiamo da sempre, che portiamo sempre in alto. veniamo dall'underground, continuiamo a fare underground e spingiamo sempre dal basso verso l'alto. E questa è la nostra direzione, sarà sempre quella. Grandi, cioè proprio sintetico e perfetto, non c'è stato neanche bisogno di dover fare nessuna domanda. Anzi, la cosa che a me è piaciuta molto, oltre al significato del pezzo, è il fatto che appunto sia stato fatto da una collettività di persone che avete unito ognuno le proprie competenze. E poi appunto Mad me l'ha detto, ho dato gli ultimi ritocchi, ma è un lavoro collettivo. Certo. E quindi... Certo, perché se posso dire due parole ancora? Sì. Perché guarda, allora la cosa è nata al non ho mai smesso di scrivere io in vita mia, mai, anche nei miei momenti no, anzi la musica giustamente parla, tira fuori il meglio di te sia dalle brutte situazioni che dalle belle situazioni. E l'ho scritto in un periodo in cui avevo voglia di rivalsa questo testo. Ho tirato dentro anche Sisco, che era un ragazzo che produce delle basi, però anche lui era un periodo no, lo sono riuscito a tirarlo dentro, quindi l'unione ha fatto la forza in questo caso, come sempre. La musica, il significato che do io alla musica è quella di unire, di unione, non di divisione, come ahimè purtroppo sento da molte persone che se ne vantano anche questo. Lo spirito di unione, lo spirito di rivalsa hanno fatto una leva impressionante anche sugli altri ragazzi. Io ho fatto un po' da collante, ho avuto come sempre il supporto di mio fratello Marco, che è mio fratello per la vita, quindi dico sempre CHF avanti tutta, perché è un tatuaggio indelebile che c'è nel cuore. E quindi con la collaborazione di altre persone, col supporto anche dei ragazzi qua dentro, che ci hanno creduto in noi, è venuto fuori questo progetto che sono felice e orgoglioso di aver portato a termine insieme con tutti quanti gli altri ragazzi che ho nominato, perché è lo sforzo di gruppo che ha avuto ragione qua, e la cosa mi dà ancora più soddisfazione. Ecco, io sono stato quello che ha fatto partire la scintilla, però è tutto quanto il gruppo che dopo ha collaborato veramente con amore, passione, fotta, solidarietà. Degli ingredienti secondo me fondamentali che oggi, ripeto, ci tengo a dirlo perché sono molto dispiaciuto nel sentire molte cose che sento in giro, dove tutto questo viene a mancare. Meno male sono ancora gruppi che spingono nella direzione giusta e che spingono la musica per quello che dovrebbe essere, per unire, per dare dei messaggi, dei significati, e far muovere anche semplicemente la testa, anche semplicemente da ascoltare, da ballare, però nella direzione quella giusta, con la vibra positiva, ecco, con una vibra positiva. E noi siamo andati in quella direzione, quindi sono contento che il pezzo vi sia piaciuto, spero che piaccia anche ai vostri ascoltatori. E a noi sicuramente è un pezzo di cui andiamo molto orgogliosi, ecco. Sì, a noi è molto piaciuto, okay. E siamo anche molto contenti di spingerlo, anche perché grazie mille, tutti grazie i valori ancora, che ragazzi. Spingete sono quelli della cultura hip hop. Quindi ti aspettiamo presto, di nuovo a Ferno. Un saluto a tutti gli altri ragazzi della comunità. A presto, Leo. Va bene. Un abbraccio. Grazie mille a voi. Ciao ragazzi, un bacio. Ciao. Ricercatore del mio io, tipo Siddhartha, to che si rialzo fra dei cuci e stanza. L'unione abbatte la distanza, ipocrisia si scansa. Il boccio lavora dopo anni di galera e torna dentro stanco a tarda sera. La gente ha pregiudizi, chi se ne frega. Gente in gamba, umanamente vera. Metto sul foglio un'altra storia. Pezzi di vita che si è preso quella troia. L'abuso in goia, sensazioni tipo grande botta. Un frate peso che si scotta, una piega storta. Ne so qualcosa, una ferita ancora aperta. Storie malate, oh. Guaglioni, state allerta. Chiedi da stagno, gliel'hanno tolta. Intanto sogna mentre sconta. Travolti dagli sbagli come un'onda. Ci metto calma, seguo il mio karma. Mettendo amore, io scaccio via la rabbia. Sorrido quando sento Piero. Una capa tosta, un compare vero. Un uomo bueno, era allo sbando senza freno. E torna sui binari verso la famiglia più sereno. Scusa se credo, scusa se credo. Scusa se credo, scusa se penso al mio passato e tremo. Scusa se credo, scusa se credo. Scusa se vivo il mio presente e spero. Scusa se credo, scusa se credo. Scusa se penso al mio passato e tremo. Scusa se credo, scusa se credo. scusa se vivo il mio presente e spero. Il male si scaccia, Pierangelo sboccia, da preda a predatore gli dà la caccia. Un equilibrio che riassumo su sta traccia, in tripla H ci prendo forza. Fuori in terrazzo, Toma sta suonando, tocca le corde mentre sta viaggiando. Accumulati dall'abuso di sostanza, illuminati senza avere perso la speranza. Francisco in cassa, vi dà sto tempo nelle tempie che vi spacca. È vero fra, lo sa babà, pozione magica, la musica per alzare sto livello contro ogni statistica. D'ore mi fa salire a mille miglia, coscienza prende il volo e poi si sveglia. Parlo con l'anima, mi fa da veglia, sussurra mica urla, mi tocca dolce poi mi culla. Frulla, a testa alta nella folla, suole piantate a terra con la colla, esco da una finta bolla. Chiedi a sti ragazzi come cazzo si decolla. Volti tatuati in corpo, anni 26, Giovannino è morto. Dagli un senso è quello che mi porto, da rietto e spaccio impresso il volto. Vite perse sono vive nel mio ricordo. Scusa se credo, scusa se vedo il mio futuro senza addosso quel veleno. Scusa se sento e più non tremo, questo presente vivo più sereno. Scusa se credo, adesso vedo, respiro aria e più non annego. Scusa se credo, scusa se spero, di più me stesso visto che muoio ci credo. Solo un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole. Solo un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole. Posso darmi tutto quello che ho imparato, oppure solamente quel poco che mi è dato. Io, e questi erano i Kiri Ferno direttamente da Ferno, Mad Mille e Mosquito Man, che potete seguire sul canale YouTube della Stanza Buia STZB. E ora andiamo a introdurre un altro grande amico, Beppe Rebel, in questa occasione featuring Zasta NCF, con un pezzo tra gli ultimi usciti a cui Beppe tiene molto. Questo pezzo è stato registrato prima del lockdown ed è la celebrazione dei suoi primi 18 anni di musica. Musica e lotta, perché Beppe è un compagno sempre impegnato in tutte le attività della militanza. E questo pezzo appunto parla di passione, esattamente la stessa che ha spinto Mosquito dei CHF, che spinge tutti noi, perché quando credi nelle cose le porti fino in fondo, perché le fai con il cuore e la passione. Quindi questo è Fino in Fondo, Beppe Rebel. Sai come l'amore per la Palestina che porto dentro al cuore, con Hafiz e Bach in ogni canzone, sopra il furgone di una manifestazione. Questo è il mio sentimento, amore, lotta e rivoluzione. Non mi posso fermare ora, ho la fotta oggi più di allora, ho la barba bianca ma ancora voglia di divertirmi, sai. Ho tante cose da dirvi, 18 anni di resistenza musicale, rappa muffin dal basso contro potere, solo presa bene, antifa nelle vene, insieme a Zastone, pronti a spaccare, corteggi antisociali, gemme improvvisate, Bovisare Gay Foundation le prime serate, poi ancora, ancora, persone splendide conosciute da nord a sud di questo paese, zero pretese, solo gioia, amore, lotta nelle mie vene, questo tu lo sai, questo è Beppe Rebel, rappa ma fin sai, per la rivoluzione nel cuore di un guaglione che non ha smesso ancora di lottare e di sognare, per spezzare le catene dello sfruttamento. Quel che io dico io non mi pento, questo è il mio sentimento, perché ci credo fino in fondo, ci credo fino in fondo, ci credo fino in fondo, ci credo fino in fondo, ho la barba bianca ma ancora voglia di divertirmi, sai. Ho tante cose da dirvi, 18 anni di resistenza musicale, rappa muffin dal basso contro potere, ho la barba bianca ma ancora voglia di divertirmi, sai. Ho ho tante cose da dirvi. 18 anni di resistenza musicale, rappa muffin dal basso contro potere, rappa muffin dal basso sound antifa, beberebbe 18 anni militanza sonora, a Milano colonna sonora, una mitraglia che spara parola, tu non ne capito buono fatto, queste cose non è rap, massimo rispetto, porta barba bianchi fila in piedi, rivelata già starebbe ne capito un cesce, che se una brigata, che se sovversione, che se una canzone, un team è brigante che spara una parola, rinde cervello e dritto cora, rindo cora, rindo cora, ho la barba bianca ma ancora voglia di divertirmi, sai, ho tante cose da dirmi, 18 anni di resistenza musicale, rappa ma fin dal basso contro potere. Yo, e questo era Beppe Rebel, che potete seguire sull'omonimo canale YouTube. Bella Beppe. E adesso, mantenendo sempre il filo conduttore della passione, introduciamo Enjoy e Yas, a.k.a. City Sewer, da Torino. Questo pezzo si chiama Passion ed è estratto da un album che si intitola Cotton, uscito recentemente anche un video. Alle produzioni e agli scratch il nostro amico DJ Crash from Hangar Studio, quindi direttamente da Milano, anzi Nerviano, quindi produzione appunto fatta qui in Milano con gli strumenti classici appunto delle produzioni HIMPC, che praticamente questa traccia nasce come freestyle semplicemente per fare un pezzo assieme, e da questa, invece da questa traccia qua è nato poi tutto l'intero disco Cotton, che potete andare a trovare appunto su Spotify e YouTube sul canale di Enjoy TMC. Invece per seguire DJ Crash e per ascoltare tutte le sue produzioni potete trovarlo su Hangar Studio, cioè su YouTube col nome Hangar Studio. E quindi questo è il prossimo pezzo, si intitola Passion. Con quello a volte con il freddo, pannocchio a volte nel sacchetto, con i crampi alla pancia, il pullman sta di ganja, la gente che mi guarda, io c'ho l'ultima speranza, l'ultima chance di chi non ha mai avuto chance. C'ho la nonchalance, non clochà, tipo no chance, tipo spalle in guerra e le palle toccano terra. Una vita di lavoro, un disco d'oro fatto a merda. Per questo volo, scrivo, non molo, che non ti dico, da solo, un micro come amico al lavoro, programmo per la micro, che suono, che viaggio, che un altro anno dopo scappo, che un altro anno poi non giri casco, basta notte in bianco, basta in bianco, basta piango, e faccio uscire il sole col soul, con le sole poche notte che c'ho, che resisto ancora un po', ho già preso questo fang in faccia, sogno Brooklyn dei 90, e la ruota gira con i Island, frate mi vogliono in gabbia, io fresco il Long Island, dove si scavare un tunnel fino a Staten Island, che la cosa non cambia, io cerco un mezzo, tipo Carlito col micro quasi salito sul treno. Place where the mic's on, shot this song. Merger from the floor, put my left on the top. Place where the mic's on, shot this song. Resto sotto al sole con la mole del lavoro, sotto queste suole il buon umore non me lo fottono, faccio fuoco, tu chiama l'ardore, metto fuoco la mia strada mentre la tua resta solo un'opinione, grezzo quanto basta vero per quello che resta, battezzo questo beat come fossi il papa in piena messa, vesto boom back, da quando ho cominciato man producendo quest'album, con l'APC bruciato e te preso dalla foto, foto questi fake MCs, strafotenti dietro i beats, dentro i loro skinny jeans, in strada animalistico ma voce prodigi, merda night is mica la solita scitta per i tossici. Ho più di qualche grammo di attitudine, peso così tanto che la bilancia si è appellata a un giudice. Rime che valgono il triplo come tiri di LeBron, ma a differenza vostra, so come chiudere. Yo, e questo era Passion di Enjoy e Yas, prodotta e screcciata da DJ Crash. E ora introduciamo un duo, sia perché sono due tracce fatte a due, perché è proprio una coppia di tracce. Comunanza sono state entrambe prodotte da DJ Ugly, la prima in duetto con Cabo, la seconda in duetto con Mastino, e sono state proprio prodotte nello studio appunto di DJ Ugly, che appunto al riguardo ci siamo sentiti ieri sera al telefono per parlare un po' del concept di queste due tracce registrate appunto in quarantena. Praticamente Ugly mi ha detto questo, che è una cosa molto bella e che quindi diciamo ci tenevo anche a condividere con chi è all'ascolto, perché appunto queste due canzoni, che sono Rap in a Day e 24 Frames, sono praticamente la cosa più facile e bella da fare con le persone con cui prima di tutto c'è amicizia e poi sintonia musicale. Quindi sono tracce create insieme al 100%, quindi proprio mentre uno scriveva l'altro produceva, e condividendo lo stesso momento e stato d'animo, quindi in un'unica sessione di composizione, scrittura, registrazione e anche video, perché di Rap in a Day c'è pure il video che potete trovare sul canale YouTube di Cabo. E quindi si è creata una vera e propria alchimia in cui la produzione è il vestito su misura creato appunto da DJ Ugly per ognuno dei due MCs, che lo hanno arricchito con il loro portamento. Quindi è stato un completarsi, quindi è una cosa bellissima, perché è il fondamento della musica e della musica hip hop, però al giorno d'oggi non è così facile sentirlo dire. Quindi era una cosa, una riflessione, una presentazione che ci tenevamo a farvi appunto ascoltare. E ora Rap in a Day, Riyad. Questo rap è medicina, il tuo rap è made in Cina, si trasforma la saliva e quando rimo sputo china, la mia voce è mescalina, la tua voce è una mattina, se il mio rap è a pecorina, il tuo rap viene prima, mi sembri fuori controllo, ti serve una visita, col microfono al collo, Matilde sei mitica, rap del fibrillatore, one, libera, sta roba mi ha salvato il cuore, rap spirito, aria, apri quella porta, guarda se la scena è morta, è colpa di sti mille stronzi, tutti sulla stessa torta, ora che la merda sfonda, il rap è una finta bionda che nasconde una seconda, le mie rime c'è in fonda, Ugly dammi la scintilla, spinte, rogeno, fanne una di classe, green, termogano, tu fai musica per pochi, sei un monaco, io con quattro stracci faccio rime, rap, molotov, ora è tardi per pensare, t'ho voglia di cremare, 10 grammi di deliri, sopra la strumentale, ho le rime prese male, perché son preso male, sai, un altro motivo non lo so dare, attento, aprimi, guarda quanto son marcio dentro, rallento i battiti, se ti guardo ti vengo dentro, abbatto gli alberi, se ti scrivo quello che penso, qui i fogli scappano, coi miei mostri portati in grembo. Io non sono nessuno, ma dammi un abiro, che divento quello che voglio io, rap mimo, nubi di fumo come Draghi, fino al mattino, li cavalchiamo sulla schiena, Fantino, se ti chiedi che cos'è, che mi lava via lo stress, che mi sdraia e mi inflex come fumo, Marrakesh, siediti di fianco a me, te lo dico solo a te, si chiama musica, si chiama arte del cazzo di rap. Nero studio, Ninja Skills, alta definizione, DJ Ponton, a.k.a. Ugly, Mastino the Dog. Il tempo gira scatti in 24 frames, quanto hai conta più di quanto sei, le parole più dei fatti e non puoi vivere dentro, i mulini a vento che combatti. Il tempo va a scatti in 24 frames, quanto hai conta più di quanto sei, le parole più dei fatti e non puoi vivere fuori dai colori di questi fotogrammi. È Armageddon, l'aria in fiamma dentro al vento freddo, il dramma che si staglia nel profilo dello specchio in ostaggio, solo un ingranaggio dentro la catena di montaggio che ci tiene sotto scacco, il suo ricatto, la firma di un contratto con il diavolo, stretto nel suo abito, è un doppio petto in platino, prigioniero di una Polaroid che ruba l'anima, ma mille film non muovono un'immagine che è statica, forse è il cranio che respira smog, scheletri nell'armadio, c'ho un corredo come Dylan Dog, abituato sin da piccolo che i sogni non si avverano, provvedo a non avvista gli infrarossi come Predator, il tempo gira scatti in 24 frames, quanto hai conta più di quanto sei, le parole più dei fatti e non puoi vivere dentro, i mulini a vento che combatti, il tempo va scatti in 24 frames, quanto hai conta più di quanto sei, le parole più dei fatti e non puoi vivere fuori dai colori di questi fotogrammi. tutto ruota sempre intorno a quelli sconosciuti che diventano fratelli con la stessa fretta in cui li perdi. In questi eterni gironi infernali, certi giorni inverni interminabili, news da telegiornali, solo aria fritta e bugie. Come stai? Zitta, pensa a chi sta peggio, stesse litanie. Chi è in piedi si lamenta di chi striscia, si sente God Sigma, pur restando sempre nella stessa risma. Sta musica del sisma e sveglia la coscienza che fa finta, scompone la tua luce come un prisma. Una battaglia non è guerra vinta, per questo metti grinta e dai una spinta. Prepara il tuo universo al third impact. Il tempo gira scatti in 24 frames. Quanto hai conta più di quanto sei. Le parole più dei fatti e non puoi vivere dentro i mulini a vento che combatti. Il tempo va a scatti in 24 frames. Quanto hai conta più di quanto sei. Le parole più dei fatti e non puoi vivere fuori dai colori di questi fotogrammi. Il tempo gira scatti in 24 frames. Quanto hai conta più di quanto sei. Le parole più dei fatti e non puoi vivere dentro i mulini a vento che combatti. Il tempo va a scatti in 24 frames. Quanto hai conta più di quanto sei. Le parole più dei fatti e non puoi vivere fuori dai colori di questi fotogrammi. Quanto hai conta più di quanto sei. Quanto hai conta più di quanto sei. Quanto hai conta più di quanto sei. Il tempo gira scatti in 24 frames. Quanto hai conta più di quanto sei. Quanto hai conta più di quanto sei. Quanto hai conta più di quanto sei. Il tempo gira scatti in 24 frames. E questa era 24 frames. Quindi DJ Agri Fit Mastino, le potete ascoltare questa sul canale YouTube di Mastino, che si chiama Mastino or Mastino. Potete riascoltare Rapping a Day su Cabo Official, sempre su YouTube. Mentre invece tutte le altre cose fatte da DJ Agri con Black Beat Movement le potete trovare sugli omonimi YouTube e Spotify. E visto che appunto abbiamo un po' preso la tangente per il funk appunto con le produzioni di DJ Agri prima, di DJ Crash poi, continuiamo per questa strada. Vi proponiamo un pezzo uscito durante la quarantena che si intitola Bring the Funk Back di Expo, direttamente dai 13 Bastardi feat Blackstar. Yes, too fast breaks the God bless. Sangue mo uno tre hostess. GPO, GPO, GPS. Vitamo cuori da munezza per un cellulare, ma chi tamma amore da nobiezza per un bello svare. Amo portata gente in coppa luna, ma sta terra è un malo scorne che non campo tutte i giorni. La vita interinale sta ma piezzo bene. E manca te una tona, poi d'accusa nata sera, mo refuso capatone, già t'hanno studato stereo. È puro microfono, e guaglino sai che bon, come sai che bon. Tutto virtuale, tutto tale quale, stesso rituale, stesso suona finta criminale. Sesso orale cota tu, ma sto rap non ne ho canta tu. Un canta sì, ma come campa tu? Analfabete e cozza mana peggia razza. Sulla legge scazza, legge mazza, peggia WhatsApp, usteggia, brazza, mano reggia, stazz. Poco rapesso greggio, ma satteggia pazz. Ah, poi volevo dire una cosa, ma tutto sommato non è che ho fatto una vita in merda, ma vi siete fatti bene i conti, vi conviene. They were mis vena psicopolizii și gasam pe nu like că nu saci. Sim mă tută faile selfie cu style belt, sim mă cyber sex and no touch. Agenda te nu malindu core, non faci obe. Too many people, too much. Acesta cadu cava spine, mostraci. Agemanadu sal în cinze, mo viaci. Ma voi cum vă n-importa? Avete l'alibi morale. Ma guardi ma mi comando ma guardi ma questo era Bring the Funk Back di Expo, che potete riascoltare sul canale YouTube dei Sangue Mostro, che si chiama Sangue Mostro Official. E adesso introduciamo l'ultimo pezzo di un rapper che non ha bisogno di presentazioni, che è Inoki, che potete seguire, immagino già seguiate sugli omonimi Spotify e YouTube. Questo pezzo, dopo aver appunto viaggiato con il funk di Expo, ci porta in giro per il mondo, perché questo pezzo si chiama Nomade e parla di tutti i viaggi appunto affrontati dal suo autore nel corso della vita, nel corso di questi ultimi anni, viaggiando con una valigia leggera ma carica, carica, carica di musica. Inoki, Nomade. Nomade, nomade, ehi. Nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, ehi, ehi. Nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, ehi. Pronte valigie e cartoni, si parte per nuove avventure, per nuove destinazioni, lasciandosi indietro paure. Roma, Bologna, Milano, Perugia, Salento, passando per Barcellona. Ogni sei mesi furgone si parte, si prende una casa nuova. Qualcosa si perde, qualcosa si trova, qualcosa si porta con sé, qualcosa si lascia per strada per forza. Forza e coraggio, all'inizio partivo da solo, in pullman e in treno. Adesso con una famiglia fantastica in viaggio, col cielo sereno, il vento alle spalle, la voglia di andare a conoscere ancora nuove persone, nuove culture, scrivere un altro pezzo di storia. Nomade, nomade, nomade, da quando ero giovane, giovane, da quando viaggiavo su macchine scomode, con bande diaboliche, carico, carico, carico. Pronto ad un altro trasloco, senza rimpianto e rammarico, riempio il furgone e riparto di nuovo. Casa e microfono, qualche vestito, quello che serve lo prendiamo là. Prendiamo, partiamo, ci trasferiamo, andiamo in un'altra città. Mi chiamano Inoki Ness, prendo e distruggo sta wave. Hoya Amdul le best. Nomade, nomade, ehi. Nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, ehi. Nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, ehi. Metto i contanti nascosti, prendo contatti nei posti, metto PlayStation, giochi, libri, dischi, ricordi nei pacchi. Ciotto le pappe dei cani, spazzo le corde guinzagli, riempi la macchina uovo, fai sacchi neri e non sbagli. Metti la piccola sulla sua seggiola, speriamo non pianga. 12 ore di viaggio, fra, si va in una terra più calda. Siamo quelli che migrano a sud, andiamo contro tendenza. Siamo quelli che lasciano il caos, cercando una vita diversa, senza badare l'invidia, la gente malvagia, la gente cattiva che incontri dovunque tu vada. Troppa la gente sbagliata, senza pensare a che cosa ci può capitare di male ma solo di bene, dimenticandoci il canto ammaliante di streghe e sirene. Pronti a partire di nuovo, mettendo ogni cosa in un vecchio fiorino. Pronti a lasciare il quartiere, andare lontano, seguire il destino. Pronti a vedere altri luoghi, posti che non conosciamo. Questo mio spirito nomade ancora una volta mi dice partiamo. Mi chiamano Inoki Ness, prendo e distruggo sta wave. Hoya Amdul le best. Nomade, nomade, ehi. Nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, ehi. Nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, ehi. Mi chiamano Inoki Ness, prendo e distruggo sta wave. Hoya Amdul le best. Nomade, nomade, ehi. Nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, ehi. Nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, nomade, ehi. E questo era Nomade di Inoki. Il prossimo pezzo invece è un pezzo al contrario, che parla in un certo senso di star fermi, perché un pezzo che si intitola Dattilografo, dal Dattilografo EP di Dope One, su produzioni di ESA. Questo album è stato registrato interamente durante la quarantena, e praticamente, diciamo, l'introduzione di Dope One è questa, diciamo, in questi giorni di prigionia, quindi riferito alla quarantena, l'unico modo per evadere è appunto la musica, cercando appunto di non reprimersi. Quindi sulle, Dope One ha scritto sulle strumentali di Capitan Futuro, del buon ESA, appunto scrivendoci abbastanza di getto e registrandoli in maniera un po' casereccia, vista insomma la carenza dei mezzi, con l'idea appunto di anticipare qualcosa che avverrà più avanti, quindi un nuovo tipo di sound, quindi il connubio Dope One e Capitan Futuro Beats. Quindi questo è pop realizzato senza attrezzatura, solo con, realizzato veramente solo al cellulare, e cercando di fare musica per fare compagnia a tutti i supporter, nell'attesa di, appunto, di tornare in studio e sui palchi. Quindi, diciamo, anche questo è un pezzo letteralmente di pura passione, perché il cuore e l'impegno spesso fanno miracoli. E il messaggio di questa traccia è dedicato a tutte quelle persone che vorrebbero esprimersi ma sono bloccate dalla timidezza o dalla povertà. Quindi, se vuoi, attraverso l'arte puoi migliorare la tua vita. Questo pezzo si chiama Dattilografo ed è di Dope One. Il suono è etica, diventa T.I. Chi mette tag mentre metrica, colony grass. Chi fa scresce mentre breakers provano i pass. Se muovono in massa, vaffanculo e repress. Sono sicuro me stesso, vago pure e press. Sono sicuro che andai vita e hood, troppi palla, pochi calla. Un barbone, rorma sotto i porticato. Rompi capo, complicata, senza coordinata. 38 anni, voglio solo clima tropicale. Top in gabbia, in un zomba feel, aspetto turno. Tu giuro, sforna rima, tipo pizzetto. Tu furna, tutta cosa come c'era nasciti la blu, di la groove, fuma senza miglia e gorilla glu. Che sta luce umile come non lumina, mette una punta e cumina, ride e lupina. Yeah, non so pacchere su cupina, fatico apposta chi sciopera come crumira. Hanna pigliata sta cultura, buono strofinace. Mentre rongo, fuoco d'acci, tacate, strofa in faccia. Custode lo segreta come gatekeepers. Focalizza verità come grave gigaz. Sono le produzioni Mad Lib, ma non sono a conduzione Z-League. What one, fuck why, some boy, killa. Startup, stardust, faccerà argilla. Se fanno modella per me, so comodani a beef. Bubera sta cultura, fra tutti alla vago breath. È meglio cambiare un microfono, tengo l'arte in orafa. Sono dattilografo. Yeah, rullata ma non planta. Meglio levare canepa che turbata non turbante. Fra se mi danno fit, perché sanno a canso free. Appare nata firma, che compare in danno film. Che si scorda né chi fibo né chiave la rocca forte. Reava la fora porta, n'angelo la blocca morto. Piscatura, mene lenza, poi non se ne fotte niente. Una piscata frischerezza, rinde tempo d'emergenza. Tenga forte in emergente, ancora in un per defense. Quella che siente jazz, la brezza e leggerezza. Esame cerchi verse, mossa cagna musica. Se ne veterana nata in de casa pubblica. A capo son de parte, tipo tappe sughera. E mentre zuppano pan, buono sale zucchero. Tengo un numero magico come della Sol. E non senta roba d'orpo che va meno sola. La vita è una sola, caccio rap a vola. C'è buona scippa buona, che mi fa bene a gola. Frate ma è sassona, e vanno lancio grana. Preparano spaghetti, burro, erbe, maggiorana. Rima canariti, vanno volte mani zitte. Manno beat, manno beat, magna come tramezzine. Yeah. E yo, e questo era Dope One dal Dattilografo EP. E quindi, dopo esserci fatti un bel viaggio con la musica, vi proponiamo dei locals, che, perché appunto la musica è un viaggio verso appunto una dimensione strettamente personale, ma la musica, soprattutto l'hip hop, parla anche dei luoghi che viviamo quotidianamente, delle persone che li vivono come noi. E appunto introduciamo un nuovo trittico di pezzi. Il nuovo gruppo che introduciamo sono gli NH3 di San Donato Milanese. La loro bio su Facebook recita appunto che questo collettivo nasce nel 2012, quindi 8 anni fa, nel modo più comune, quindi ritrovandosi in piazza facendo appunto le rime. L'altitudine non è cambiata di molto, e semplicemente oltre a farle in piazza, piazza Bobbio, come la canzone che stiamo per passare, le rime le fanno anche ai live, quindi in maniera del tutto genuina e con un grande amore per l'hip hop. Il prossimo pezzo che passiamo appunto si intitola Piazza Bobbio, che potete trovare sui canali YouTube e Spotify NH, ed è l'estratto da un album uscito da pochissimo che si chiama Scarica Barile. Pongo domande senza risposta, senza soluzione, cosciente del fatto che tratto con le persone, gente che segue un copione, niente immaginazione, è sorta una corsa che porta all'umiliazione, foto e video per mettersi in mostra, tutti in gara per l'Oscar, quoto il DJ in borsa, ma se la musica è ancora nostra, sì, brucia la giostra, è l'ora di rivolta, ma che delirio, se qua nessuno mi prende sul serio, che delirio, se si confonde il bianco col nero, che delirio, se nel cielo non si intravede più Sirio, qua davanti ad ogni bivio c'è uno scenario più grigio, non resta che il fastidio a tenermi compagnia, un sorriso inciso sul viso sintomo di ironia, hanno loopato all'infinito ogni melodia, anche se non passi in radio faccio sentire la mia, persi nell'abisso fisso gli occhi di chi ha visto il mio stesso destino a cui ancora oggi assisto, resisto insieme ai suicidi sempre nel cammino, esse lunga nel passato e nel presente continuo, temporale si sa che passa con le rime, le canne e il cacco che pompa nella cassa, pirati alla riscossa, ossa forti, vi devo molto, ma 40 secondi sono troppo corti, squarci di un passato ormai andato, la nostalgia canaglia, a cui sai che sono abituato, mi fumo l'ennesima paglia al solito parchetto, e sorridendo con la mista in mano io vi aspetto, non si tratta solo di rispetto e stima, voi siete l'appoggio di ogni mia singola rima, l'alloggio dove essere accolti senza timore, gomito a gomito e con un tot di amore, non ho vestiti firmati né costosi, spendo tutti i soldi per avere un domani la cirrosi, fegati corrosi, la nevrosi croniche, nella mia testa un mondo, queste sono le cronache, prova te a vivere la fame di un gigante, continuo a perpetrare, mi pare sempre costante, alienante, per questo tengo le frequenze alte, grafomane e birbante, te sono le tre parti, la trama è fitta, tutto un futi, futi e futi, fine, mi fumo tante paglie che mi fotto le tonsille, fumare uccide la vita, anche ci scrivo versi, mentre in due settimane faccio quattro lavori diversi, e vado avanti, denti stretti e nervi tesi. Chiudo la vita in freestyle sgravando per quanto pesi, perdo chili, sonno e senno, c'ho il freddo che è entrato dentro, tanto meglio sopravviverò all'inverno. E rifletto, ma più che ovvio mi sembra comico, in plaza Bobbio cresciuti gomito a gomito. Ehi, e questa era Piazza Bobbio degli NH3. Continuiamo il nostro viaggio a Milano e entriamo nel Milano Zoo. Questo pezzo è appunto estratto da dal mixtape che si intitola Milano Zoo ed è un mixtape realizzato da Manzish, che è un artista calabrese ormai trapiantato a Milano da 6 anni. Questo mixtape è uscito a fine 2019 e, diciamo, come appunto dice il suo stesso autore Manzish, Milano Zoo è la metafora di questa città, cioè un album che racconta e raccoglie le esperienze inerenti appunto alla città di Milano, alla sua periferia, dal punto di vista di chi ci vive e la vive tutti i giorni. Quindi, come residente a Milano, è entrato in contatto con questo zoo metropolitano. Tutte le produzioni sono di Manzish e il mix e il master di tutte le canzoni sono stati affidati a Catchy di Grizzly Production, quindi insomma è un lavoro a quattro mani. Poi è un mixtape da 10 pezzi in cui c'è un pezzo solista di Manzish, gli altri sono stati realizzati appunto per tutta la cintura di Milano. Il pezzo che vi proponiamo è la title track, cioè Milano Zoo feat. Rap Caverna Posse. Welcome in this jungle. Da da da da da day. Questo è Milano Zoo, alza la voce se ci sei. Da da da da da da day. Questo è Milano Zoo, alza la voce se ci sei. Da Forze Armate, Baggio, Giambellino, Quarto Giaro, Corvetto, Barona, San Siro, Cimiano, Isola, Bovisa, Gallara, Tese, Quinto Romano. Benvenuti nello zoo di Milano. Mi guarda Lambrate, Ticinese, Rogoredo, Chiesa Rossa, Sempione, Comasina, Loreto, Corla, Conchetta, Cattolica. stato soio bruzzano. Benvenuti a tutti nello zoo di Milano. Il cricellotto, la schedina e chi te muorti. Il caffè corretto, la gazzetta dello sport. Il cricellotto, la schedina e chi te muorti. Il caffè corretto, la gazzetta dello sport. Non esiste il culo bro, devi farti il culo squat. In campana dalle 7 al bar, digiuno per le slot. Figuro nello show, Milano su zoo. Prendendo il missaglio, Reddit, si restò. Ma ti fa grande gol. Sto tutto a mentre divido piatti in parti uguali. Bravi slavi, pochi amici, tanti patti chiari. Molotov flow, è inutile che spatti le ali. L'Aquila non vola, rap caverna partigiani. Radio pattuglia all'alba, dalla finestra senti cuia. Sarpigliala, ti giuro uola. Chi si perde in una giolla perché se la polla. Chi parla, parla, parla, poi non se la vola. La forza Marte, Baggio, Giambellino, Quarto Giaco, Corvetto, Barona, San Siro, Cimiano. Isola, Bovisa, Gallara, Tese, Quinto Romano. Benvenuti nello zoo di Milano. Mi guarda l'Ambrate, Ticinese, Rogoredo. Chiesa Rossa, Sempione, Comasina, Loreto. Corla, Conchetta, Crato, Soio, Bruzzano. Benvenuti a tutti nello zoo di Milano. Nei video ogni babione che strimpella. Li vedo e penso al tipo di talento che sta in cella. Finti tipo Spot, Vita Snella, RCP. Nuota nella merda per alzare l'asticella. Underground, più delle patate. Mega chill, assito alle serate. Rhythm and Poetry versus paranoie. Rap caverna posse, schifa le tue mangiatoie. Tutto d'un pezzo ma mi stai sul cazzo. Steve Rogers, diventi grande ma non cambia un cazzo. Still problem. Coi bambini ci lavoro, tu ci fai audience. Sopravvivi sotto una campana small soldiers. Indecorosi, periferici e migranti. Siamo tipo la collo che non ti programmi. Rap caverna a pochi passi dai campi. Chiamiamo ancora sacca gli scrausi. La forza Marte, Baggio, Giambellino, Quarto Giaco, Corvetto, Barona, San Siro, Cimiano. Isola, Bovisa, Gallara, Tese, Quinto Romano. Benvenuti nello zoo di Milano. Mi guarda l'Ambrate, Ticinese, Rogoredo. Chiesa Rossa, Sempione, Comasina, Loreto. Corla, Conchetta, Crato, Soio, Bruzzano. Benvenuti a tutti nello zoo di Milano. A questo posto fa venire il sangue amaro. Di calma e di pazienza sono sempre più avaro. Pochetti semichiusi tipo il Cino Alvaro. Sempre assaggio degli sbatti come un tupamaro. Fuori luoghi in ogni situazione, ogni contesto. A disagio se mi adatto eppure se contesto. Né con Dio né con me stesso né contesto. Condivido ogni pensiero che attraversa il teschio. Repulsione per menosi e pusillanimi distorta. Porto solo amore per chi solo amore porta. Astio per chi dà la mano e poi ti parla dietro. Per i fasci, per gli sbirri e contro l'ori in metro. Siamo a casa a uomo come un piccione in duomo. Rosso tipo chiesa, la bandiera di mercurio cromo. Senza religione, nessun messia in croce. Qualche Cristo in canne, qualche canna veloce. La forza armata, Baggio, Giambellino, Quarto Giaco. E io, e questo era Milano Zoo, che potete ascoltare interamente dal profilo YouTube e dal profilo Spotify di Manzish. E adesso da Milano facciamo qualche chilometro, ci spostiamo a Pavia. Introduciamo quindi il primo MC della crew di Pavia Male, che è una crew storica ormai, attiva appunto a Pavia ma in tutta la Lombardia. E se girate come noi le jam penso che li conosciate, perché insomma era più o meno dove ci fosse un contest di freestyle qualche anno fa, dove ci fosse una jam, dove c'è hip hop, è abbastanza facile incontrarli. Il primo MC che introduciamo è Izzol, che appunto potete seguire sul canale YouTube Izzy Pavia Male, sul suo Spotify Izzol, così come potete seguire Pavia Male sull'omonimo canale YouTube e Spotify omonimo. Questo pezzo è un pezzo dedicato a Pavia, che parla quindi appunto di Pavia e della gente che la abita, ed è un pezzo particolare perché Izzy ama essere on point ed è stato fatto sulla strumentale di So Brooklyn di Casanova Fit Fabulous, quindi accettando la sfida del remix. Quindi questo pezzo esattamente cioè facendo seguito al pezzo originale, ha un titolo americano ed è So PV. I'm so pretty, per i fratelli ognuno i suoi motivi. Non cancelli i bordelli con cui convivi. Dimmi in giro fra che combini. I'm so vivi, con quanti sogni sopprimi. I'm so vivi, occhi rossi senza colliri. Tra finti ricchi e finti street bimbi coi soldini. Vite quasi finite come fondini. Cadi dallo scooter più buche che tombini. So vivi, te che le spalle cospiri. Io le barre come gli scratch costini. Troppo stili top, anche se dici stop. Uomo sono di vivi come graffiti shop. I'm so vivi, giro coi soldi contati. Non mi perdo in litigi coi soliti montati. Per le strade ci becchi conciati. Leggendo urbane solo vecchi scoppiati. Pensi non ne posso già più, qua giù il tempo non passa più. Come bus in corso Cavour, provinciale, noia mortale. Se peri manda un amico, se non c'è un cazzo da fare, qua si spaccano il triplo. I'm so vivi, dove la paghi senza scontrini. Anche in estate nebbia sale dai cortili. So vivi, ti butta giù come sciottini. Kenzo lo schi nei fossi o boschi come porcini. Gli sbirri comandano i porcini. Vecchi leghisti tristi buoni per concimi. Ciò che vendi raccoglie anche se la lascia crotti. Universitari sbronzi hanno tanti soldi. Mettiti in mostra tipo Peach al Vuli. O chi fa la voce grossa tipo Peach in giù. Volevi fare brutto da casa ragazzo. Sotto un cielo azzurro come la squadra di calcio. Satra discount, prezzo basso, qualità peggio. Non mi abbasso, impasto varietà, pregio. Non amo i falsi, non lavo quei sassi. Provinciali anche con Milano a due passi. Il tuo apprezzarla per due giorni come una farfalla. E non ci sarà divinità a cambiarla. Rappresento la città e la campagna. La realtà che ti cambia in una città di campagna. Yo, e questo era So Pivi di Izzle. Adesso proseguiamo con un altro MC appartenente sempre alla crew di Pavia Male, che è Tusco, che è appunto attivo da un bel pezzo ormai, perché è attivo da 8 anni nel mondo del freestyle, nel mondo delle jam. Un MC anche molto prolifico, ha finora realizzato 2 EP e 4 album, e ultimamente è molto attivo anche con una specie di, una sorta di miniserie che si chiama Frigo Bars, quindi una videorubrica con strofe inedite della serie, appunto per rimanere sempre on point. È uno degli MC di Pavia Male che vanta forse più collaborazioni, perché negli anni ha collaborato anche con ESA, con Inoki, con Rap Pirata e con Freeze the Cat. E il pezzo che vi proponiamo adesso è uno dei pezzi tipici di Tusco, perché appunto è caratterizzato da un grande utilizzo di metafore, punch time, giochi di parole. Il pezzo che vi proponiamo si intitola Ci vediamo doping. Ci vediamo doping, in sostanza tu mi droghi. Ci vediamo doping, nello spazio scrive poking, oh, ci vediamo doping. Tu scusa. Senti il flow sopra il suono, sotto shock, sì lo so, troppo buono, prodotto top. Vivi dentro un mondo fake, Photoshop, rappo dietro nelle orecchie, cotton fioc. Username Tasco, digito la password. Ti entro nella testa tipo la finestra task force. Non sai più chi sei tu, psiche sotto assedio. Vuoi uscire ma non puoi fuggire. Fuori è pieno di rompicoglioni. Sul codo zero non conti milioni. Provi a guardarti con occhi da fuori. Tutti a guardarti con gli occhi di fuori. Se tu non eviti quei culi fetidi, frate, finisce che ti fumi l'etere di chiamere. Sempre quel numero, credimi, tipo paziente recupero crediti. Di gusto vanno, busto le da spruzzo crack. Music rap, la gusti sul sofà. Viaggi busso van, segui il flusso bam. Sei nel giusto clan. Tusco fan, non la busta fra di Mustafa con dentro il Tusco pan. Tieni a bada i tuoi neuroni, oh, ci vediamo doping. Se mi chiami tu mi trovi, oh, ci vediamo doping. In sostanza tu mi droghi, oh, ci vediamo doping. Nello spazio Steve Hawking, oh, ci vediamo doping. Ci vediamo doping, acid erbo. Col mio flow di dopi, acidi erba in rima. Di che vuoi parlare? Come oggi il clima? Tanto tutto fa cagare, entero germina. Ipocriti, ipocriti. ipocriti schifosi. Risp dopo il beep, risp dopo il beep. Sì, così, beat positive, ipnosi. Già da piccoli, bar, circoli, viziosi. Butta male, bella brother, pusher magre, bel vialone. Una moneta per favore, to fa il kebab, metadone. Tipo di neuroni, infatti fuori come un glory. O lo trovi ancora comico, sei fuori ancora fobico. Mondo malato, tu mi fa schifo. Ciò che ho sperato, tu sei sparito. Zombificato, defunto da vivo. Stai in uno spettacolo, tutto esaurito. Tieni a bada i tuoi neuroni, oh, ci vediamo doping. Se mi chiami tu mi trovi, oh, ci vediamo doping. In sostanza tu mi droghi, oh, ci vediamo doping. E io, questo era Ci vediamo doping. Continuiamo il nostro viaggio nella provincia di Pavia e andiamo letteralmente in mezzo al nulla, perché vi presentiamo un estratto da Dal Nulla volume 2 di Polisì, appunto un mixtape che racconta fieramente della provincia di Pavia dove Polisì vive. Questo pezzo che vi proponiamo è un featuring con un altro componente di Pavia Male, che è Sonny Edge. Questo pezzo si chiama La Zona Oscura, che è uno sfogo contro l'ipocrisia, soprattutto per quanto riguarda sia la musica che le religioni. Questa traccia è particolare perché è stata registrata e mixata in Inghilterra a Coventry al Family Tree Studios durante appunto la permanenza dei due autori in Inghilterra. La Zona Oscura. Questa è la zona oscura, mi ci hanno sputato. Ora sono il padrone di casa dopo avermi ospitato. Ops, ho dato uno sguardo al futuro, in verità l'ho spiato. Tu puoi predirlo dopo aver usato un condo bucato. Sono stronzo e ubriaco, la tua idea blindata non sa con chi fotte. Viene stuprata giorno e notte, scrivo i versi del più forte. Ti svegli dopo sette saette, cadono pezzi di shuttle sui tetti. Pensano che io scherzi, bubu sette, ti spacchi setti. Gang bang con i doppelganger, situazioni violente. Ventenni violati in campeggio, è il peggio si intende. Hip hop un gioco, finché non vendi, offendi per sport. Tu mangi cibo in scatola senza un penny come Danny the Dog. E non faccio rap per le masse, ogni mia barra è una massima. Il tuo disco di platino, sì, ma la tua musica è di plastica. Non fotti nelle tasche, nascondi francobolli con la svastica. Giocavo basket con la testa del prof di ginnastica. Sei il re di Troia, io l'erede di un boia, questo basta. Non tutti in Italia sono fatti della stessa pasta. Questo rap passa attraverso come raggi X, rende le tue ossa fragili. Metto la tua vita all'asta mentre scanno angeli con la faccia in trip. Metti l'anticasa, entro nel tuo party con un rap che disinfesta. E chiamo Satana per sputare 24 barre a messa. Tiro sassi quando suona l'orchestra, chiaro che sta combo pesta. E se non ti piace in culo devi ficcartelo in testa. Mi passa il suono di sta strumentale per scaricare l'odio che covo dal sottosuolo. Dare capitale, un'anima piena di scelte sbagliate, pesa un quintale. Un cuore da rianimare, intesti da riesaminare. Vengo a messa solo per legare il cardinale. Gli tengo testa mentre lo sto per decapitare. Dalle tue gesta si vede che marchi male. Non mi puoi vedere in testa ma sanguinare, allora stammi male. Quanti ne ho conosciuti, fanno i peli vissuti. Nella vita reale ti scendono in 10 minuti. Il mio geno è un veleno che non conosce cura. Non basta la fede, un cielo per vedere nella zona oscura. Asso del micro, scrivo di notte da pazzo svampito. La giro passo incito ad un passo al mattino. Ogni astro è svanito, è rimasto un ammasso di schifo. Parlo di me in ogni testa e non rompo il cazzo dal vivo. Quindi parla schietto, se sono un buffo, se Gargamella e cambia aspetto. Visto che puoi andare in passerella, sono un armaghetto che travolge una paperella. Stai nell'armadietto anche dopo la campanella. La nebbia è fitta, cerco la calma nel tornado. Vengo dal basso, mi danno dalla cripta al bentornato. La mia strada è scritta e slitta in uno slalom. La tua strada è in pista, contro mano dritta, contro un palo. E io, direttamente dalla zona oscura, rime da battaglia, Polisì e Sonny Edge, che è l'autore anche del prossimo pezzo che si intitola Chi sei. Potete seguire Polisì sul canale YouTube e Spotify omonimo, così come Sonny Edge appunto sul canale YouTube e Spotify omonimo. Questo pezzo, Chi sei, è un singolo che avrebbe dovuto precedere un album che però è stato cestinato, e quindi è stato presentato come un singolo che simpatizza il personaggio musicale interpretato da Sonny. E appunto lo stampo di Sonny Edge rimane sempre sul grottesco, fantasioso, crudo, con un accenno in questo caso di ironia, capace di strappare volendo anche un sorriso. E quindi questo pezzo si intitola Chi sei? E l'autore è Sonny Edge. Questo non sei tu. Chiudi quella cazzo di bocca! Non sei tu. Chiudi quella cazzo di bocca! Non sei tu. Io sono Sonny Edge, fottuti maiali, stirpe di evoluti marziani, voi figli voluti da anziani, state nutrendo chi vi nutre, fottuti maiali, saluti cordiali, siete licenziati, fottuti maiali. Ho inventato la lampadina che stai masticando, mi riparo dai pezzi di gengiva che stai sputando. Qualcuno è morto al mio posto come Patroclo, giro con gente educata quanto una cagata di triceratopo. Se fallisco ti uccido l'anticristo mancino, caratteristico tipo karate misto col micro. Sei un fottuto maiale, messo in forno vivo e nudo, censurato tutte le età come un video porno UFO. Disadattati gravi, la realtà non ci compete, felicità che va e viene, un giorno Gandhi, l'altro Darth Vader. A picco fuochi e villaggi in due, perciò mi temono, e faccio jogging con dei pitbull che mi inseguono. Chi sei, chi? Mi chiedono chi sono. Io sono Sonny Edge, da ste parti sono nuovo. Chi sei, chi? Mi chiedono chi sono. Io mi chiamo Edison, luce nel buio uomo. Chi sei, chi? Mi chiedono chi sono. Disinfetto i beats sputando mercurio cromo. Chi sei, chi? Mi chiedono chi sono. Se mi dai una pistola gli sparo dal terzo uomo. La tua paura dell'arresto e dell'imprigionamento è un impianto di milioni di anni fa. Sono l'unico a cui piace. Vaffanculo! Certo. Sto fuori come un detenuto che scappa dal carcere. Vado a caccia con le asce, vite stroncate sul nascere. Quando faccio cunnilingus sembro un pesce gatto. Sul mio petto c'è un buco dalla quale esce un ratto. Inzuppato di sangue, vegano stufato di carne. Però questo pensare in grande mi ha sviluppato le gambe. Festa all night long, Matteo ho rapito imbavagliato con dei nylon. Letteralmente più arrogante di Tyrone. Dammi un gotto, problema risolto. L'oceano mi bacia i piedi, lecco fighe profumate di cocco. Mi volevano morto, ora bevo cocktail a bordo di uno yacht. No, idiota, più probabile scopare una suora che fare jackpot. Perennemente in apnea volando come l'olandese. Cambio idea all'ultimo come un aborto all'ottavo mese. Uccido il tuo rapper preferito, rap Bushido. E se il tuo rapper preferito sono io, mi suicido. Chi sei, chi? Mi chiedono chi sono. Io sono Sonny Edge, da ste parti sono nuovo. Chi sei, chi? Mi chiedono chi sono. Io mi chiamo Edge. Yo, e questo era Sonny Edge. Questa era la Pavia Male. Li abbiamo messi tutti insieme perché appunto... ripeto, volevamo un po' ricordare le jam che ci piace fare insieme, quindi non potendo metterli tutti e quattro sul palco, li abbiamo messi tutti uno di fila all'altro nella nostra playlist qui con Gigi Proiettili. Adesso ci spostiamo ben fuori Milano, perché ci spostiamo anche di genere, perché dopo tutto questo rap presentiamo qualcosa di un pochino più particolare. Presentiamo Gente a Sonagli, che è il primo collettivo di producer e DJ slegato dai generi e dalle etichette, uniti dal potere della musica. Il team è composto da DJ Radio Rai M, Lori G, MLTX, spero di averlo detto giusto, che con la loro esperienza musicale macinano campioni e sample per tirare fuori, oltre a produzioni, remix, pezzoni, riviste in chiave black, anche appunto tutta una serie di video, perché il video che vi propone, cioè il video, il pezzo che vi proponiamo ha anche un video, appunto è anche molto interessante da vedere. Il pezzo che vi proponiamo è qualcosa di magico, come la zona da cui proveniamo tutti quanti noi, ed è il Cap di Garbagnate, 20024 Magic. Moving on to the next. Now we're moving to the next. Now we're moving to the next. Now we're moving on to the next. Now we're moving on to the next. Now we're moving on to the next. We'll be right back. Questi erano i Gente a Sonagli. Potete trovare il video, vi consigliamo di vederlo sul canale YouTube Radio Raim. E ora introduciamo un nuovo collettivo. Sempre di fuori Milano, è la GPS Posse. La loro bio Facebook recita, insomma, le loro influenze, che sono Barbecue, Sagre di Paese, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal, Arrosticini, Pizzoccheri e Dipset. Quindi non male. I tre sono Grime Vice, Hillside e Diesel, che si autoproducono con l'etichetta Gatto Pirata Dischi. Quindi vi proponiamo un trittico degli ultimi pezzi usciti. Il primo che vi proponiamo è di Grime Vice e si chiama Cuore di Cane, Dog's Heart. How you doing? Azzurro nel cuore che morde non abbaia. In un angolo di casa, guaraccia sconsumata di una principessa Maya. La polvere non risponde mai a nessuno, no, lo sai. Che forma un suono e l'accordo con cui suona i guai. Come che casino là fuori, c'è Dio su di giri. Chissà cosa diranno i vicini. Noi vicini alle casse in attesa del suono più forte, in estasi come i bambini. Oh, guerra attentamente matte, attici con vista su fabbriche abbandonate con finestre rotte. Non fate quelle facce, siamo tutti nati qua in mezzo, qui dove tutto ha un prezzo. Ogni secondo è meno spazio e chiunque qua torna è un pazzo. Non ricordo da quanto spezzo le paglie, partecipo alla tragedia delle foglie, al destino dei fogli, al paradosso di un poeta con figli e moglie. Wagner e la tempesta si mischiano al vino mentre nati come questa corrono su per le braccia fin dentro la testa. Il fumo ristagna alla finestra di una lurida Stamberg, e se guardi fuori stanno tutti di merda. Di merda. Ma quale calma, conti aperti con il karma, e quando bussa alla mia porta stappo una birra e gli porgo una busta d'erba. Quello che ho. Stappo una birra e gli porgo una busta d'erba. Può andare. Questo era Grime Vice, che potete seguire sull'omonimo canale YouTube e canale Spotify. Il secondo MC di GPS Post che introduciamo è il nostro amico Hillside, con il suo singolo 140 BPM, estratto dall'album di Hillside, che si intitola Shitty Season, scaricabile gratuitamente dal Bandcamp di Gatto Pirata Records. Vi consigliamo di ascoltare e di seguire tutte le produzioni di Gatto Pirata Records, perché meritano. Questo pezzo, appunto, 140 BPM, è una traccia prodotta da Grime Vice ed è una traccia tributo a Grime e Dubstep, per quanto non sia né una traccia Grime né una traccia Dubstep. Insomma, Fizio ha voluto mettere, anzi Hillside ha voluto mettere un omaggio a dei generi che lo hanno influenzato fortemente, però con il suo solito piglio rap, bello diretto e incisivo. 140 BPM. alla 140, sono alla 140, quanti? Insomma, era aperto con la tempesta, entro dal retro nella tua festa, ne sputo ancora 64 con le mani sul pacco col mal di testa, flow degradato come le Jescal, apri le gambe e chiudi l'inchiesta, babi che ammirano le tue gesta, finiscono morti da Bruno Vespa, rapio incondizionatamente da chi se ne va da chi resta, uccido la bestia, se la mia vita è stare tranquilli, la vita che c'ho non è questa, quello che devo pagare pago, in quanti errori chiamami mago, fatto tre passi poi ti porto in alto come il 23 quando stava a Chicago, 140 come di Double, gonfio Big Baby come Big Bubble, nato fra le montagne di lago, io ti porto in viaggio senza trivago, un solo micro d'un solo cavo, sono 30 anni che me la cavo, e se mi guardi indietro mi sono preso solo quello che mi meritavo, world all day come Fuzzi, da sempre fuori per nove pulsi, nuovi campioni più nuovi flussi, sui vecchi coglioni con gli occhi lustri, tengo presente che vengo dal basso, quei dischi e quei tempi mi ha folgorato, senti sti papi poi senti il side, non mischi la merda col cioccolato, sto sopra mica la Frank Sinatra, te ne cago una poi ne aspetti un'altra, io non c'ho la roba pettinata, muto tuo mango e ti facessi lata, queste barre faccio mastermind, basta Dino se basta Rhymes, 140 come UK Grime, e con i calamai che non basta mai, non come tuo rap che non serve un cazzo, cercati il mio beh ti serve il casco, contro tendenze si cambia passo, cambiati flow ma non cambia un cazzo, calma un pazzo, sclero con le leggi del flow, prossimo livello come Edgy and Show, sogni Bugatti non leggi Peugeot, scrivi cazzate tattici coi bro, AKA io cazzi miei, tu cazzi tuoi, ok? Io non ascolto la roba che crei, everyday come Lele con le daily update, dammi più liquidi no poste pay, non mi confondere con questi fake, 12 tracce vocali per strofa, io la pro la chiudo in un cazzo di take, ehi, succa l'hotel tuo DJ, col tuo microfono maculato, ma chi va mai inculato, pensa a tutti i babbi che ti sei accollato, spacchi, ma dammi più troie coi tacchi, che c'è problemi a pacchi, dopo sta mossa ci sta a ripensare due giorni come nei match di scacchi. 140, dammi le 140, quante ne vuoi? 140, dammi le 140, troppa la 140, 140, troppa la 140, troppa la, troppa la, troppa la 140, dammi le 140, quanti? Yo, droppa la 140 Hillside. E il prossimo MC che vi presentiamo è Mental Diesel. E vi presentiamo un estratto da un lavoro a quattro mani, cioè Varitech Alpha, Diesel al rap e Comma 1 alle produzioni. Anche questo ascoltabile dal Bandcamp di Gatto Pirata Dischi. E sul canale YouTube di Cosmonauti. Questo è il terzo album di Mental Diesel, solista, dopo Immaginario Vortex e Plasma Music. E il pezzo che vi proponiamo si intitola Starter Pack, cioè il set di robe per iniziare. Diesel lo descrive in questa maniera: ho una certa antipatia sulle varie meteore, gente che arriva sparata su, magari con un sacco di talento, quelli sui quali ci sono mille aspettative che si gonfiano per questo e poi puff, finito il carnet delle barre, due grattate di fondo di barile, vaffanculo. Questa traccia io e Comma l'abbiamo dedicata a loro, e quindi non c'erano migliori parole per introdurre questo pezzo, si chiama Starter Pack. Scagliando un sasso, trapasso i fenomeni con l'astio, giù come il 4 di bastoni quando l'asse è fuori dal mazzo, mastico Kobe con gli altri della mob, conosci il nome, il dove, il quando, ho sempre il mood di erode, le strofe degli altri sotto le suole, campione al ripasso, tieni le tue sole, lampi blu, tanti dubbi, lupi, babbi, tabù dei capi, la tribù ai grammi, non i drammi, e tu manco aspiri il fumo dal rione, flex il tutu, era quasi meglio con le crew del fu in fubu, locco porte, apro box, faccio scorta, aspetto detox, pompo belli, svuoto il frigo, metto i dilox, dormo un po', faccio un cocktail, prendo e scrivo, scompongo il flow per il bis che sgrana il trito, sulle stories del tuo mito, guardo e rito, ready vivo, Rocco e Stocco Jace, Living Diesel. Vogliono sei gambe per i pezzi in playback, volano sedie, starter pack dei fake rappers, vogliono seccarmi, non rappo, mangio label, Uncle Breaker, Asti Bass, buy on my Lakers. Vogliono sei gambe per i pezzi in playback, volano sedie, starter starter pack dei fake rappers. Vogliono seccarmi, non rappo, mangio label. Ancora il break era sti bust, by no my Lakers. Stronzi, vi vedo glitchy. Ho 100 occhi come Argo, come tutti spicci. Stile scarno, guardo dall'alto. Tra i tralicci, tu col passo del leopardo. Calmo, cazzo ti impicci. Fresco, può entrare quando smetto, niente messaggio. Un assaggio dal gancio, un abbraccio. Sgancio per chi aspira le cime, chi sospira le cime. Non per le gambe, ricicla stile. Non per le vipere, hanno da spire. Che devo dire, cambia genitrice se tua mamma veste Pirex. Cazzo, comando, i due capi dell'impianto. Sbanco in canto, una spanna sopra te e quell'altro. Una palla se vi sto ascoltando. Pausa, pianto, causa, schianto. Chiama a casa, non c'è trap, ma Rambo. Sei Carmine fottuto e mi servono sei calmanti. Tornio fuori asse, buco storto da parte a parte. Articolo fuori gara, all'infinito base d'asta. Classico Siga Master, le mie reto sulle tue sfighe massi. Vogliono sei gambe per i pezzi in playback. Volano sedie, starter pack dei fake rappers. Vogliono seccarmi, non rappo, mangio label. Uncle Breaker, assi e io, e questo era Starter Pack. E ora rimaniamo sempre nell'ambito dell'etichetta Gatto Pirata Dischi e introduciamo una lady che è Voodoo V, che è una, appunto, una rapper e una cantante attiva da diversi anni, appunto, sia nell'ambito hip hop. Ha pubblicato due album, il primo si chiamava Autumn e il secondo, in collaborazione con Grime Vice, era Joint One Kush Clouds, per poi pubblicare l'ultimo album pubblicato è di quest'anno, del gennaio 2020, che si intitola Rito. La nostra Voodoo V è attiva anche con il team delle Calabash, quindi proponendo reggae e dancehall in tutte le yard di Milano e dintorni. Questo EP Rito è praticamente racconta dell'arte che si fa gesto quotidiano, e alla fine è come se fosse una finestra privata sul cortile della grande città di Milano, quindi permeata da caos e rumore, e vuole essere semplicemente un atto di fede quotidiano, una visione che prima non c'era e un pensiero diverso da assaporare. Quindi questo album, che vi consigliamo di ascoltare, è un EP di 4 tracce con appunto produzioni di Yazi, Verdo e Mauras, e va dal classico hip hop a anche robe più sperimentali, quindi a metà tra trap e soul. Il pezzo che abbiamo scelto è V per Veleno. V per Veleno. V per Veleno. Per veleno. Non c'è rimedio, ci volo dentro questo sentiero. Non torno indietro, non mi volto indietro. Provo a sfondare, arrampicata sociale. Tutto molto banale, sincera e brutale. Quante cazzo di pare, paresi facciale. Paresi facciale. Perfettamente tutto identico. Identità, no, spaventa più un artista libero che l'assenza di un artista limpido. Yeah, come il veleno che come il veleno. Ma per me no. Per me no. Sono l'antidoto, piccolo microbo, tu sei in pericolo. Capace di entrare sotto pelle, colpire e vedere le stelle. Boccata d'ossigeno, bacio sul collo sta tendenza. Per restare in questo inferno, attaccare dall'interno. No, non dimentico, dosi d'arsenico. Vi per veleno, vi per veleno. Yeah. Vi per veleno, vi per veleno, vi per meno. Vi per veleno, vi per veleno. Yeah. Vi per veleno, vi per veleno, vi per me no. Vi per veleno, vi per veleno. Vi per veleno, vi per veleno, vi per me no. Vi per veleno, vi per veleno. Vi per veleno, vi per veleno, vi per me no. E non c'è altro modo a sé, non questo per dimostrare che so fare meglio di te, suonare meglio di te. No, e non c'è altro modo a sé, non questo per distruggere tutto quello che stai. dietro al tuo cassè. Non chiamarmi gioia, non chiamarmi gioia. C'è chi mi chiama tra. Yeah, yeah. Scambio le carte sul tavolo. Hey. Si stringono in gola. Scelta una sola. Meglio stare sola. Meglio stare sola. Per ogni castello promesso c'è chi cerca tra le gambe la scorciatoia. La tua mediocrità non mi sfiora. Tra mille stronzi in questa città hai trovato una vera signora. Una vera signora. Hey. Dimmi la verità. Yes. Dimmi chi porta la corona, bitch. Sai chi esce vivo di qui? Sì. Chi ti fa il culo sul beat? Viper veleno, viper veleno. Yeah, viper veleno, viper veleno, viper me no. Yeah, viper veleno, viper veleno. Yeah, viper veleno, viper veleno. E yo, e questa era Voodoo V, che potete seguire su appunto gli omonimi canali YouTube e Spotify. Introduciamo un nuovo collettivo, restiamo sempre fuori Milano, ci spostiamo un pochino più a est e ci spostiamo in Brianza. Presentiamo Olio Bollente Crew, che è appunto una crew ormai storica appunto della Brianza, che ha fatto una miriade di live, eventi, freestyle e quant'altro, in praticamente tutte le jam possibili e immaginabili dal 2010 in poi. Essendo un gruppo anche oltre che longevo molto numeroso, i suoi componenti hanno come dire deciso di fare ultimamente una traccia che appunto li identificasse come il nuovo Wu-Tang Clan, appunto per stile, originalità e anche numero, perché insomma, avendo fatto parte anch'io di un gruppo piuttosto numeroso, tutti mi dicevano: oh, ma quanti siete il Wu-Tang Clan? Quindi penso che sia successo anche a loro. In questa traccia, che si chiama Nuovo Wu-Tang, di cui appunto c'è anche un video molto bello che vi consigliamo di vedere sul canale ufficiale YouTube di Olio Bollente, si alternano PJ Nina, Stoma MC, Sergio Che Rischio, Als Grey Goat, 100% Row, Tempo, Chase, No Rem, Senza R, Def, Pabo e Scarti Doc. Che dire, sembra di stare a un live di Wu-Tang, invece siamo in Brianza. La parte migliore della Brianza, loro dicevano, che appunto per renderla migliore va fritta. Questo è L'Olio Bollente, Nuovo Wu-Tang. Nuovo Wu-Tang, oh, vi, Nuovo Wu-Tang, oh, vi, Nuovo Wu-Tang, oh, vi, Nuovo Wu-Tang, Nuovo Wu-Tang, Nuovo Wu-Tang. Otto barre con otto palle, giro con lo studio sopra le spalle. Vuol dire esiste come la muraglia, gonfla macchinetta come una mitraglia. Spostati scemo, Nuovo Wu-Tang, come stai messo? Esci dal club, uso il mio tempo per mettermi in pratica. Calcoli pochi, vita matematica. Complimenti, complicato, ti lamenti, complessato. Non ci ascolti, stai impostato, è tutto fatto, sei infossato. Il caldo dell'olio ti frigge. Sti campi la squadra sai che non perdona. Sai che più che crea una famiglia, se ci provi troppo ti morde la gola. Nuovo ODB, chiudo cime, rime, OCB, mi famiglia OB, la tua cricca sembra OSI. Dalla terra della birra fiumi, fumi, fumi, occhi rossi, fumi. Con sti flussi, pugni sotto i musi, con il ferri decoriamo i muri. Alza la vise, nuovo Wu-Tang, il mio branco. Al sottobosco, nuova era sta arrivando. Morirò leggenda, come passo il mio bando. Mezzo pazzo, mezzo poveraccio, ma con stile è sempre più alto. Come faccio a smettere se siamo il nuovo Wu-Tang? Sempre nuove rime per ogni nuova puta. Monotono come il traffico nell'ora di punta. Capisce che non sono monogamo, allora mi punta. Gioca, ascolti il rap dell'olio, frate. La tua tipa ascolta te, che sembri te, due copi male. Siamo in 20 e tutti originali. Non facciamo cash con questa merda, andiamo a lavorare. Nuovo Wu-Tang, 10 anni di clan, 10 sul palco, va che qualità. Siamo tutti qua, scegli madame. Olio bollente una calamità. Salto più in alto, House of Pain. Drago mi esalto, sto coi miei. Obi, omi, scolpi di cannoni. Tira sulle mani come in Coppa dei Campioni. Si vola, erica, ma metrica. Presenza scenica, vieni qua. Forza magnetica, energia sferica. Pista d'atletica, infuocala. Non chiediamo nelle palle di fuori. Veniamo con le palle di fuori. La mia crew col sotto in buca. Palla in buca, fuma, ci sfiori. Famiglia, la mia nave c'ha una blindochiglia. Fende scogli senza batter ciglia, mangia miglia, mette per le gusto vaniglia. Qui nessuno è solo, suono, fono. Qui nessuno è solo, mono, uomo. OPV skills, allievi maestri flatline, un solo ruolo. Siamo in troppi, tu fatto in là. Sopra il palco non ci si sta, la tua vita non ci si fa, la tua tipa non ti si fa. Grilli nella testa come mai, sono anni che ti fai non fai, sporcando solo un po' il tuo wifi. Non pago affitto, non ho wifi. Olio, comito che sboro, lo lasciamo al podio, lo facciamo a modo. Ehi, non voglio un quattro portafoglio, ma vivere meglio, riempirmi d'orgoglio. E non ho stato to doppiato. Yo yo yo yo, OB Branco se sono alato, sono soddisfatto capo. Comi, lo spiego bene, OB One Kenobi. OB Wu-Tang i nuovi, inizia a rappare su One Kenobi. Ah, coffee stick, ci sta risa, frate, sto volando, cielo nero e giallo. Io, quanto cazzo siamo lombardi, Gigi, quanto cazzo siamo lombardi. Forse un po' troppo, e forse è il momento di prendere una boccata d'aria e spostarci. Noi di per sé non possiamo uscire dalla regione, quindi usciamo dalla Lombardia con la musica e presentiamo un bel po' di, appunto, autori di fuori Milano. La prima producer che vi presentiamo è Vea, che appunto direttamente da Torino, anzi direttamente da Caserta, è trasferitasi a Torino, che ha prodotto un album che si chiama Veamente, per interamente autoprodotto, perché l'etichetta è Vea Prods, che vi consigliamo di ascoltare direttamente da YouTube o direttamente dal Bandcamp Vea Prods. Ed è un, appunto, un producer album, il più classico dei producer album, quindi con una miriade di feat. Il pezzo che vi abbiamo proposto noi, e passeremo tra poco, si chiama Japanize feat. Dantrix, però diciamo l'album è molto variegato perché si muove appunto tra il nord, con featuring come B-Boy, Enea e Dafa, ma anche il sud, quindi con featuring anche di Callister. Questo è appunto un pezzo che appunto ci ricorda il rap, quello bello degli incastri che ci piace a noi, e si intitola appunto Japanize feat. Dantrix. Anima, ciò che capita è che resto da solo mentre si esamina la loro esistenza macabra. Tutti scompaiono e si divertono quando avvertono che sei a disposizione. Sfruttano il tuo valore, vorrei fregarvene, ma l'affetto non restituito mi fa pensare di essere inutile. Sono sempre l'incudine, battuto dal martello, una moltitudine di falsi sentimenti nell'abitudine di fasi contrastanti, date le varie condiscendenze, le debolezze feriscono, i ricordi si imprimono nella mente inutilmente. Ti fanno cadere nel baratro che ti fa pensare al trissedare non avere. Vorrei ricevere un minimo, posso trasmetterti tutto il mio animo, ma tu scompari in un attimo. Siamo un numero dispari, diviso dall'unico sentimento reciproco che non ho. L'unico ringraziamento lo devo al mio flow, di cui vivo quello che do. La musica accresce la mia anima che subisce la carica immensa. Non bisogna dare molto valore alle parole dal passato che mi ha lasciato. Ora il fato spero mi abbia tramandato una nuova corazza che non si spezza, mi protegge da chi mi colpisce, si appressa chi mi trasmette empatia. Io, e questa era Vea con Japanize, tratto dall'album Veramente. Vi suggeriamo di seguire anche la sua serie di strumentali che si intitola Sushi Beat. E ora vi proponiamo, restiamo sempre fuori Milano, un pezzo del profondo nord, perché abbiamo Sandro Su, un rapper molisano trapiantato in Trentino, featuring un gruppo di jazzisti appunto sempre del nord, se non mi ricordo male, del Friuli, che sono i Mole. Questo pezzo è uscito durante la quarantena, è uscito assieme a un video molto bello che richiamava i film di fantascienza degli anni 70, della seconda metà degli anni 70, e uno appunto dice: ma come si intitola questa canzone? Come si intitola questa canzone? E alla fine la risposta degli autori di questa canzone è questa: il titolo non sempre serve. Questa non è musica, questa è solo un modo per mettersi in mostra. Tu mi dici si parla per te, ma io non ho chiesto una risposta. Questa non è musica, questa è solo un modo per mettersi in mostra. Tu mi dici si parla per te, ma io non ho chiesto un cazzo. Ok, spalanco le finestre a destra ma fuori piove. Romantica violenza dal 99. Qui è pieno di talenti, sì, ma dove sono io? Troppo veloce o la terra non si muove? Scusa se critico ogni beat rachitico, mi sembra il minimo. Hater fin dai tempi degli articoli. Credici o meno, si gasano in un baleno. Gli hanno dato la mancetta per comprarsi un beat osceno. Bang bang, la clientela è soddisfatta. Si vive la giornata ma con la coscienza intatta. Moletti, senti questo quanto spacca. Momenti cado dalla sete e mi sbriciolo l'anca. Così si forma il lessico e si plasma. Sono il ghostwriter di un cantante fantasma. Look ma no hands, e del fango sui pedali a non farmi dire basta. Basta. Questa non è musica, questa è solo un modo per mettersi in mostra. Tu mi dici si parla per te, ma io non ho chiesto una risposta. Questa non è musica, questa è solo un modo per mettersi in mostra. Tu mi dici si parla per te, hey. Ma io non ho chiesto. Ho perso il senso della misura. Ne sono 16 che dici sei sicura. Saccoccia non si cura, non è un fatto di fortuna. È lei che ha clacsonato, vede stuzzica in più prematura. Io c'ho l'arsura e siete un cazzo di deserto. Più che underground sono un cazzo di reperto. Nel senso faccio il rap e voi fate Mauro Repetto. La mia carriera è un carpiato da un parapetto. L'artista noto come artista, un tempo noto come Prince, ma prima sarebbe pista se sapesse chi è il king. I vostri dischi dai cinesi, un happy ending. E il pizzo, pane e merda, un happy meal. E te capita a te, ma tu chi dita? Tu mi hai capita a me, non faccio i feat. Dietro a un metronomo con i suoi click, mi faccio i film con i mostri, Todd Browning, freaks. Questa non è musica, questa è solo un modo per mettersi in mostra. Ci si parla per te, ma io non ho chiesto una risposta. Questa non è musica, questa è solo un modo per mettersi in mostra. Tu mi dici si parla per te. E io, questo era il titolo Non sempre serve di Mole feat Sandro Su. Restiamo fuori Milano, presentiamo un mixtape uscito da poco, Waza Best Rap volume 2. L'autore è il campano Oyoshe, che appunto in questo mixtape affronta un po' tutte le tematiche, da quelle più easy a quelle più peso, e tutte le sonorità, da quelle più east coast a quelle più trap. Un autore che a noi piace molto e che è stato ospite di un live di Zam, se non mi ricordo male 5 anni fa, in apertura a ESA and the Jailbreakers. Noi lo seguiamo da mo, praticamente da quando ha fatto uscire Live from the Scannatoio, e ci piaceva appunto presentarvi questa sua traccia dal suo ultimo disco. Questa traccia si chiama Respect Oyoshe. Porte je rispetto, porte je rispetto. Cara da du diep, guarda quando diep. Saluta nu frate, guarda quando diep. Porte le rispetto, vai o fraga spiet. Fra non diga, che le che fa. città non vira, quella che fa. Portici rispetto, portici rispetto. Vai o fraga spiet, vai o fraga spiet. Portici rispetto, portici rispetto. Te faccio brevetto, lieva tu berretto. Con lui stai coperto e tutto va vado. O minimo corretto, massimo gerata. Brindo bene, buo, o male andenga tiemba. Vira buono bro, che la roba non sa per niente. Non c'è mai perso contatto che la gente che mi ispira. Mo trattengo respira, pensa a me stessa e scriva. Portici rispetto, si ma chi l'impira. Prima linea, senza bisogno di dopamina è naturale tira, contamina mo stile, ottengo in un mo stile. Portaci rispetto, portaci rispetto. Cara tanto tempo, guarda quanto tempo. Saluta un frate, guarda quanto tempo. Porta il rispetto, vai o fraga spetto. Fra non dica, quello che fa. Fra non vira, quello che fa. Portici rispetto, portici rispetto. Vai o fraga spietto, vai o fraga spietto. A biccerile mai d'accordo con nessuno. Siamo cresciuti con un scimmio ci saluto. Passa e chiuda ma mi carin da una radio. O sai ma fumo pure si stonghi da radio. Best rap sta strada certificato. Rindesteri in de macchine e in de case. Dammi insomma neanche voglio tatuato. Si scritto sopra sempre non mi è pignorato. Bevo pigna colato, vogliagno colato. A me non frate se ne è chiuto sangue coagulato. Portaci rispetto ma dove accattà. L'educazione sempre segna in nobiltà. Come un goppo ring guardia alta fra. Si può essere un king all'otera rafa. Portaci rispetto, portaci rispetto. Cara tanto tempo, guarda quanto tempo. Saluta un frate, guarda quanto tempo. Porta il rispetto, vai o fraga spietto. Fra non dica, quello che fa. Fra non vira, quello che fa. E io state trappando nelle vostre case al parco, speriamo di sì, noi sì, stiamo trappando un botto e vi proponiamo un'altra collaborazione, diciamo, di fuori Milano. Nex Cassel, quindi un rapper veneto, con il palermitano Saint Luca Spanish, diciamo è un duo ormai consolidato che gira da diversi anni, quindi sia su disco che in live. Questo pezzo è uscito durante la quarantena e si intitola Diserbanti. Sicuro come la morte, è il mio secondo nome. Che per un gettone ti mando su Plutone. Piacere, sono Nesca, l'amico del barma. Siamo il Big Pharma, sta roba ti infiamma. Arrivo con il sound, quindi pare ti levi. Continua con sta roba finché Levis li levi. Alto come i papaveri, alto come Maverick. Ho chiamato il catering, la pozione di Asterix. E sei venuto in moto per sentire questa roba. Pare come minimo vai a casa su una ruota. Non so esattamente quanto ho svolto questo mese, ma non rompete il cazzo che vi tolgo dalle spese. Rappo con gli dèi, giro con i miei. Non faccio holiday, bevo Holy Grail. L'ho squadrata con lo sguardo, ho insistito tanto. Che se rimani incinta sono lo Spirito Santo. Invitami che tengo anche il salone del Senato. Perché quando rappo è una questione di Stato. Pare qua in serata prendi carne e come. E la paghi cara come carne e Kobe. Ma non ti vergogni quando parli di buste. Non scrivi canzoni ma verbali e denunce. Mi è apparso il tuo album, ho messo sound off, altrimenti vado in bagno e faccio il download. Non siete capaci, non siete capaci, perché fatti duri ma per me siete crostaci. Stanotte abbiamo dato, dico, quasi lavorato, però sabato esco già chiamato l'avvocato. Abbiamo fatto scempio, poi gli altri fanno il resto. Abbiamo fatto presto, appena entrato dentro, pensavi di beccarmi però non hai fatto in tempo. Che appena arrivati noi abbiamo fatto il vento. Non ricordo i nomi, invece voi ne dite tanti, fu tutti dilettanti. Alle prime armi, fai come i tuoi miti per cui alla fine parli. Ammazzo i parassiti senza usare i diserbanti. Non ricordo i nomi, invece voi ne dite tanti. Fa tutti dilettanti. Alle prime armi, fai come i tuoi miti per cui alla fine parli. Ammazzo i parassiti senza usare i diserbanti. Non ricordo i nomi, invece. Io, e questo era Nex Cassel, che ovviamente potete seguire sugli omonimi canali YouTube e Spotify. Continuiamo, e dal Veneto ci spostiamo a Bologna. Un pezzo, anche questo, che parla della quarantena, registrato durante la quarantena. È il momento di presentare l'Arsquad Crew.

amore, se amore sai dare. Siamo venuti per osare, per disossare. Non paragonare questa squadra al resto della Lega. Prega che ci tolgano la fotta con la motosega. Green, strega, alfa e omega. Sopra il palco non c'è resa, effetto sorpresa. Palleggio giù al campetto, zero serie A. Meglio leggendari che tronisti senza dignità. Ancora con sta storia che il suono è cambiato. Rappavo quando manco eri nato. Zitto, mettiti di lato, ascolta la lezione. Questa è merda radicale, il top in circolazione. Motore, azione, vuoi recitare? Tu che fai la storia? Sì. Dentro il cellulare. Prendi male anche sotto l'antenna centrale. In missione, direzione Bologna centrale. Stanno bussando al sottosuolo. Ninja che volano la notte col kimono sporco di petrolio. E non mi lavo se chiedo perdono. Ma vendo l'anima al demonio per comprare un cuore nuovo. Wow, uomo contro uomo vinceranno i mostri. DSA comando psycho bifo con gli occhi. Uomo non sei un uomo, qua ci sono i mostri. DSA comando psycho bifo con gli occhi. Sono cresciuto con rispetto della strada, non quello dei social media. Con rispetto per chi spacca, non quello per chi invidia. Sempre fuori fase, dal teatro di sti burattini. Tipo marionette, vignette di Forattini. Diavolo di rime, scritte ancora sulla carta a penna. Mentre sopra il palco la tua crew tentenna. La mia antenna capta tempo dai tempi dell'Atari. Non parla di filosofia e parlamentari. Questo è Mac Nick, Cream 183 Brain. Ehi, duri a morire come McLean. Seleziona sempre hardcore sopra il display. O forse non ti serve il cazzo come a Miss Day. Lupi sul promontorio, torna al tuo dormitorio. Savona a volo, manda a casa del tuo repertorio. Vuoi merda fresca, la do fredda tipo all'obitorio. E non c'è rapper migliore nel mio territorio. E yo, mascherine, vi è piaciuta la gita? Speriamo di sì. Noi torniamo a Milano. Torniamo dopo aver sentito tutti questi pezzi, anche piuttosto battaglieri gli ultimi. Torniamo a Milano con un pezzo anche lui battagliero, con un MC storico che non ha bisogno di presentazioni, perché presentiamo ESA, a.k.a. Capitan Futuro, a.k.a. El Presidente, con un pezzo estratto dal suo ultimo album che si chiama 20 Flessioni. Lo potete trovare su YouTube, sul canale di El Crespo Visions, o su Spotify come ESA, a.k.a. El Presidente. Per non farci mancare nulla, ESA ha anche un Bandcamp da cui potete supportarlo e comprare la sua musica, che è Capitan Futuro, anzi Captain Futuro di Bandcamp. Questo pezzo ci fa venire la colina in bocca e si chiama Salsa Pariglia. Già lo sai chi è che ha il funky flow, e yo è presi presidente, big up my man Tubo Jones. Cosa? Lo fotti col freestyle Kaiser Sosa. Parlano di retorica noiosa, ignorano poesia e prosa. Come sia possibile che non capisci quanto è grossa? Scacco matto in una mossa, funky ma cossa. Astratto con l'attacco a strappo e la metrica stilosa. Il tuo click ignora, ma un giorno dovrà studiare meglio la storia. Tora, tora, tora, e volano via con la bora. Da Vieste a Trieste, flow che rinfoltisce le foreste. Unisce nelle feste, azzittisce sti merde. Democrazia vuol dire che non vince medio man, ma che c'è un posto anche per Hermes, Ines ed Est. Guarda come volo, occhio con la dieta che alza il colesterolo. Sbriciolo i farlocchi di polistirolo. Parlano e parlano, ci faccio il ripieno per il cannolo. Crema di ricotta dentro la siringa. Ringrazio di non essere finito con l'ace siringa. Lunedì col sole mi sento Mazinga, Godzilla. Ballo e faccio il windmill come Magilla Gorilla. Schiatto Gargamella con la salsa Pariglia. Ho messo su famiglia, cacao e vaniglia. Anche se non garba la cricca bastarda. Spegniti, sono isterici, brindiamo. Porta la bombarda, nessuno abbassa la guardia. Non vogliono il centro sociale, abbasso la guardia. L'apertura è il ministero. Ci vuole anche un po' di festa nel monastero. La cassa in mano, il campione in stereo. Bella Guaglioni, questo è rap serio, semiserio. Il presidente sempre ghetto, chic. Brodini e ciccine, pompate questa merma nelle streets. E gli ghidi yo con il funky flow, lo sai. Don't stop, don't stop. E questo era ESA, a.k.a. El Presidente. E ora introduciamo un progetto molto molto molto molto interessante, arrivato al suo secondo capitolo. Parliamo di Drum Machine, appunto, fuori con il secondo disco. Dopo Drum Machine abbiamo Drum Machine volume 2. Praticamente Drum Machine è un gruppo nato da un feeling comune per la musica rap carica di attitudine, che parla senza mezzi termini ma stando attenti a non sprecare le parole. Il gruppo è composto da Mastino e Blobby in veste di MC. Su consiglio di Francesco Paura hanno iniziato la collaborazione col terzo membro, appunto, di Drum Machine, che è DJ Apo, che quindi si occupa delle produzioni e degli scratch. Questo gruppo è caratterizzato dal creare veramente in tempi minimi, perché il primo album è stato creato nell'arco di tempo di una settimana, questo è stato realizzato in soli 2 giorni. Diciamo che quest'album, questa volta, è un progetto, come dire, il proposito degli autori questa volta è di uscire con un progetto più ambizioso e curato, quindi sviscerando il potenziale della combinazione delle tre sensibilità, quindi direi hip hop al 100%. Drum Machine volume 2 esce anche lui per Gatto Pirata Dischi, quindi lo potete trovare lì. Potete trovare il video di questo pezzo che vi proponiamo sul canale YouTube di Blobby. Questo pezzo è appunto realizzato da Mastino, Blobby e Apoc con gli scratch di DJ Sciocca e si intitola Mille Poesie. Un semaforo, 2 spicci su una mano, una boccia di peroni rubata dal pakistano, un BM sbatte la portiera, incinta un'altra cameriera, un Cristo vola via, mette i drammi nella cappelliera. Chi piange per niente, quel che piange perdente, le lacrime spese le rispediscono al mittente. Chi dimentica l'amore, chi si vendica il rancore, mette in vendita il cuore a 20 euro nel congelatore. 24 ore, palle del ventilatore, al bar a bere amaro, a giocarsi la vita a poker, un gatto mangia spazzatura, un tiro passa la paura, un spiro umano è raro come un cino che fa la fattura. La malattia è la cura, l'ingresso in discoteca, facce da Caravaggio, disagio in pinacoteca, un collega spegne tutto, si spara discollega perché ha perso tutto sulla vita all'ipoteca. Mille facce, mille occhi, mille poesie, mille vie, mille voci, mille melodie. Mille facce, mille occhi, mille poesie, mille vie, mille voci, mille melodie. L'alba saluta ancora i tetti, ho i miei affetti stretti al petto. Un'altra notte fatta salva, chiudo i sogni nel cassetto. Una moneta nel cappello, un jazz dalle note dolci solleva il mio castello in aria e poi esplode 9 colpi. I volti ci raccontano storie, sono libri aperti, le rughe come righi negli occhi, mari e deserti. Certi giorni vomitano versi rosso carminio, il plasma nel calamaio affonda addosso il suo artiglio. La piglio sopra i marciapiedi incisi, capoversi, il cuore a terra per brindare come stiamo messi. La verità nello sguardo in cui ti ci rivedi, e i tuoi problemi sono il vento in poppa, tira in barca remi. Temi il tuo futuro incerto, il gelo impresso dentro, e senti caldo nell'inverno e nell'inferno freddo, -273 Celsius. Ma ancora lì a raccontarci storie attorno al fuoco che ci brucia dentro. Mille facce, mille occhi, mille poesie, mille vie, mille voci, mille melodie. Mille facce, mille occhi, mille poesie, mille vie, mille voci, mille melodie. Mille facce, mille occhi, yo. Oh, e questo era Drum Machine, uscito veramente da pochissimi giorni, quindi veramente fresco fresco, ma anche caldo caldo come il pane, come questo sound genuino. Continuiamo con appunto un'altra produzione artigianale, un'altra autoproduzione, un'altra produzione di Captain Futuro Beats, ed è un pezzo di Gato Tomato per Emi Problemi, due MCs che hanno fatto parte del progetto Certosa EP qualche anno fa, che sono caratterizzati appunto da delle liriche pungenti, molto ironiche, e che provengono dall'area nord di Milano. Questo pezzo è uscito durante la quarantena e si chiama Marlon Brando. Funky Brez con me, il papi Emiliano da Milano, di tomato sacco pure lupi po, gioco il gioco della vita in partita, palline da ping pong, sempre sulla strada PES 8, tu in casa PES 8, bollate mi guarda cuo, da matra, non vale la pena fare troppi boss, mi fai pena Van de Stros, se gilega giù a Ciro, bio bio dall'altra parte dell'oceano, Kiba a Barcellona, io qui a Farinella, Ola al Barcellona, bro non chiamarmi bro, non sono il tuo bro, ho una sorella più piccola ma l'appena 8, ne conto ancora fortuna poi nonostante tutto, per avere devi dare pressa poco il doppio, gamberoni alla griglia, BG con gli ML, mentre ci facevi sei che FSFN, c'è ancora gente che mi chiede se c'è cose P, non l'abbiamo fatto per il rap, guardavamo il TV. Nel locale dove stai, passo dopo, e le canne che ti fai, passo dopo, passo dopo, passo dopo, il mio stile è troppo, passo dopo, sempre se io prima non mi scordo, e i discorsi che ti fai, passo dopo, buona foto, passo dopo, passo dopo, passo dopo, il mio stile è troppo, passo dopo, sempre se io prima non mi scordo, ti servo il filetto col contorno a fianco, sgattaio loco gatto, ed è presto fatto che non faccio presto, stappa altro shampoo, godi non capisci un cazzo, come quando stai scopando il 4, il fatto è che ti resto impresso, se ti impresso resto, tu resti lo stesso, un bala, in serata resto fresco, esagerato, metti gli occhi addosso, perdi il fiato, la tua tipa c'ha il pomodoro, ti rimando al banco, rimando, ti rimando a quando, giravi sopra Phantom, imboscavi nella zeppa delle Buffalo, dopato, corro ti sorpasso, caro armato, subito il prezzo al più alto grado, se Marlon Brando con l'amaro in isola, rilassato, un soldato che ti sta cercando dentro l'isolato, ascolti, senti caldo, io rap è ciò che faccio, mentre intanto a casa c'è già chi si sta spogliando, nel locale dove stai, passo dopo, e le canne che ti fai, passo dopo, passo dopo, passo dopo, il mio stile è troppo, passo dopo, sempre se io prima non mi scordo. E io passo dopo, Gato Tomato per Emi Problemi. E visto che qui a Radio ZM ci piace essere on point, ma veramente on point, ma più on point che on point non si può, siamo estremamente sul pezzo, presentiamo un disco uscito ieri di Jabba, l'album è, si intitola Crollo e lo potete trovare sia su YouTube che su Spotify, appunto scrivendo Jabba lo Sciallo, che è il suo autore. Il nostro amico Jabba ci presenta questa traccia che si intitola Questione di Tempo, è un pezzo che combina la sua dimensione personale, che ovviamente permea anche il resto dell'album, al classico rigetto della scena imparruccata di questo grande rap mercato. Alla fine del pezzo il ritornello è cantato da Docma, bella per chi capisce il proverbio in siciliano alla fine. Questione di Tempo, Jabba. Parto diretto, in corpo picciotto che in un cornetto, c'è da stare male, sembra di stare nelle fiabe, un orco contro un folletto, se ci troviamo in sto contesto a gareggiare, raduno stupidi pensieri in pugno, blocco e piro ma quello a cui aspiro non lo impugno, non è mai Natale, scalfisco la cheratina dalle mie mani, ma tiro respiro fit e mi rimbocco le maniche, dimmi le problemi ne incannalo solo qualcuno alla volta, ma se sta roba mi aiuta a sconfiggerli forse è opportuno chiamarla la svolta, se e sono oggetti di flusso, etti di gusto da aggiungere tu spaghetti come condimento, dense unto, il sunto è che lo faccio non per fare brutto ma per rimarcare un punto, se l'hip hop non è defunto allora è ridotto uno straccio, un laccio al braccio col quadrante, un catenaccio ha reso ostaggio un grande branco di teste di cazzo. I sogni sono cari, se non li difendi finisci che interpreti male quel care, poi dopo li vendi. È meglio che scendi, sì, è meglio che scendi. È meglio che stendi un velo piuttosto che tanto tra poco ti spegni. Legni accesi con cielo piovoso. Questione di tempo. Le condizioni atmosferiche dettano l'esito del tuo concerto. Questione di tempo. La lancetta scocca, il tuo falò si smorza, attento. Fermati un po', concediti un momento. Ad amarli pop, a te cosa t'ha spinto? È chiaro bro, qualcosa t'ha toccato dentro. Perché cosa gli sei grato, ma infiammato il tuo epicentro. Per me è un dipinto degli spazi quotidiani, delle realtà, degli ambienti che frequento. E se io non dipingo è quasi punto al dito. Perché invito a smetterla di farsi vanto e di seguire il vento. Io scrivo in base a bisogno che sento. Questioni che sento, questioni di tempo. Questioni di sample, questioni di esempio. Esprimo di senso, esprimo di senso. E sotto va luce da me tempo cade percio. Questioni che sento, questioni di tempo. Questioni che sento, cade percio. Tempo, questioni che sento, questioni di... E sotto va luce da me tempo cade percio. Tempo, questioni di tempo. Questioni di tempo. Questioni di tempo. E io rissi utopo anucci dammi tempo cati perciu, quindi le parruccate alla fine finiranno e tutti i nodi vengono al pettine. Vi suggeriamo di ascoltare Giaba lo sciallo. Siamo quasi in conclusione di questo viaggio, di questa piccola jam casalinga che vi stiamo proponendo dalla cabina di Radio ZM, e vi presentiamo un pezzo appunto uscito durante la quarantena. Un pezzo carico di significato perché è un pezzo molto positivo, un autore che io e Gigi amiamo moltissimo, che è DJ Graf, che ha detto dobbiamo raccogliere i migliori pensieri per superare questo momento difficile, e quindi vi presentiamo questa traccia che si chiama I migliori pensieri. Words, by all means necessary. Tutti avete bisogno del nostro massimo impegno e tutti noi abbiamo bisogno dei vostri migliori pensieri. Yes, bella fratomo DJ Graf, qui Clementino. Servono i migliori pensieri. Yeah. Napoli, Torino. Non è questione di bon ton, l'educazione qui è un'altra cosa. Attacco un pezzo e buongiorno, non me ne frega della tua moda. Carico basi da Dropbox, c'ho la mia mente che mai riposa. Imprigionata alla Bronson, senza lo Stato la gente osa. Voglio partire per Hong Kong, vedere lì come si ragiona. Graffe Clemente de Joss Nove, squadanti male la guida buona. Voglio cantare nello show e poi ricordarmi chi cazzo sono. Vivere il viaggio alla Tom Tom, vedere cosa mi aspetta ancora. Io suono retro, ancora con la felpa delle cu. Te lo porto da mo, tu ancora che credi alla Magamago, rindanator, come Shashamana una rivoluzione, rindana curf, e tu te fare che non viro buon, ma non so fare si ma so luoc, e chiudo luoc che non viro buon, come nell'Eyes of Tiger, si very nice godfather, metti dell'ice nel Kaiser, come le night nel Piper, frate ma carica bomba per Napoli, one e chi combinato, te lascio che piace che fuori tempeste su flow che bombo già da fulminato. Apprezzate le meraviglie, nascoste dietro un filo d'erba. Apprezzate il tempo lento, perché ci servono i migliori pensieri. Ci servono i migliori pensieri. Ci servono i migliori pensieri. Ci servono i migliori pensieri. I migliori pensieri. I migliori pensieri, pensieri, pensieri, pensieri, pensieri. Apprezzate le meraviglie nascoste dietro un filo d'erba, un filo d'erba. Ci servono i migliori pensieri. Ci servono i migliori pensieri, i migliori dottori, i migliori infermieri, i migliori guerrieri. Ci servono i migliori, i più veri. Alla fine vinceremo. A viaggio per tutto suon è pura fantasia. So scisi in guerra e spero che ritorna a casa mia. Riuscite in cielo, voglio bene sempre mamma mia. O presidente parla e dice niente mamma mia. Situazione è covid, parla di persone covid. Novità, la città Luca in silenzio indovida. Credo che manco il decreto fermi queste pietre. Tutti lo stesso sintomo, non perdere la quiete. Nessuno è sacrificabile. Apprezzate le meraviglie nascoste dietro un filo d'erba. Apprezzate il tempo lento. Ci servono i migliori pensieri. Pensieri, migliori pensieri. Ci servono i migliori pensieri. Ci servono i migliori pensieri. Molto più di ieri, di ieri, di ieri, di ieri, di ieri. Ci servono i migliori pensieri. Pensieri, pensieri, pensieri, pensieri, pensieri. Abbraccio medici ed infermieri e chi si affaccia per farsi vedere e le cassiere dei supermercati che stanno in guerra come soldati. E questo era i migliori pensieri, dedicato a tutti gli infermieri, appunto, cassieri di supermercati, tutte le persone che si sono sacrificate, che hanno continuato a lavorare e lottare durante questo lockdown tremendo che ci ha tenuto bloccati per 60 giorni e anche più, visto che insomma ancora non è finita. E proprio perché noi appunto a Radio ZM proponiamo tanta musica, ma ci piace anche stare belli svegli, con le orecchie belle aperte e sempre attenti a ciò che ci circonda, e ci piace anche farci delle domande su come mai sono successe certe cose. Vi vogliamo anche ricordare che sabato prossimo appunto ci sarà un corteo, sabato 6 ore 15 in San Babila, per appunto manifestare contro la gestione sanitaria della regione in cui viviamo, la Lombardia. E ora l'ultimo pezzo di questa jam assieme. Ci è piaciuto mettere insomma tanti pezzi vari come generi. Ci piace concludere, dopo appunto la riflessione di Graf, invece con tutt'altro, con una bella zarrata di uno degli autori che comunque apprezziamo di più, che è Kalash Criminel. Questo pezzo si chiama Shot Us. Calibre sur la tempe, allez vite la caisse. On rote pour tout prendre de l'ordre de l'espèce. Quand les armes parlent, tous les hommes se taisent. Plus violent que de Mad Max dans Chotas. Plus violent que de Mad Max dans Chotas. Plus violent que de Mad Max dans Chotas. Plus violent que de Mad Max dans Chotas. Tu vois les mecs en face, ils font que crier, font du cinéma. Et même les escorts, et même les escorts finiront riément. Ah ouais. Donc à faire du sale, s'occuper de la famille, à faire du lement. On te tire dessus, tu fais de l'MMA. Je rentre à couler, en plus bien saper, je casse la démarche. Je suis pas les autres rappeurs, dis à mon travers, direct je te démarre. Se lever le tamar pour aller taffer, c'est pas pour les flemmards. Je veux le salaire à Messi, la sœur à Neymar. Va t'occuper ta remet, t'as kiffé le sang, remet une balance entre nids. Quand y'avait Ambrou, j'ai vu des mecs courir plus vite que le Crémy. Scar a tué son propre frère. Ah ouais. Et toi tu veux que je te fasse confiance. décalage criminel, la définition du mot violence. On arrive massif en Dura, massif en showcase. Calibre sur la tempe, allez vite la caisse. On rote pour tout prendre de l'or ou de l'espèce. Quand les armes parlent, tous les hommes se taisent. Plus violent que de Mad Max en chotasse. Plus violent que de Mad Max en chotasse. Plus violent que de Mad Max en chotasse. Plus violent que de Mad Max en chotasse. Ouais gros, tu vas faire quoi? Ouais, bien sûr on vient du 9-3. Gang, tous calibrés dans le coin. Le sang chaud, le regard froid. C'est dans la tête qu'on shoot. Bah, c'est dans la tête qu'on shoot. Bah, tu meurs comme Petit Brockshot. Gang, tu meurs comme Petit Brockshot. La détente je presse. Ehi yo, con questa zarrata villanissima noi abbiamo concluso la nostra jam, 2 ore e mezzo, una mini jam. Le vere jam, Gigi, ti ricordi, duravano tipo 9 ore, però vabbè, diciamo, abbiamo voluto fare un sunto. Spero che, anzi speriamo che vi siano piaciute le tracce che abbiamo proposto. Vogliamo ringraziare tutte le persone che oltre a fornirci le bio e avere contribuito appunto artisticamente alla, appunto alla, alla puntata, le ringraziamo soprattutto per aver prodotto tutta questa musica durante un periodo veramente pesante, quando eravamo chiusi in casa. Quindi grazie, grazie di continuare a fare musica underground, musica per amore di farla, musica col cuore e la passione. Speriamo appunto di avere allietato questa domenica di post quarantena. Vogliamo fare un saluto affettuosissimo a una persona che sta vivendo una quarantena un pochino più lunga delle altre. Un abbraccio, Chiara. E noi abbiamo concluso, quindi tra poco mandiamo la sigla del nostro amico Pulsar. Teneteci d'occhio sulla pagina Facebook di Underground Pusher. La prossima puntata non sappiamo quando sarà, ma sappiamo già l'argomento, sarà sui Flip Mode Squad. E yo! Prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat, prat